si può fare. Si può fare l'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Lunedì 800 24 00 24, siamo ancora qua. 18, 20 e 30, si può fare l'attualità anche d'estate. Questo è il numero verde in compagnia di Alessio Maurizi, Carlo Gabardini. Ciao, buonasera a tutti. Ha vinto uno stage quest'estate a Radio 24, uno stage da opinionista, diciamo così. Sono felicissimo, ho vinto, diciamo che per il momento ho passato lo stage la prima settimana e ho iniziato la seconda settimana. Confermato, confermato. Giorgio De Luca non c'è, Riccardo Bucero, Laura Faggini, in redazione Andrea Piana e Valeria Bernardi, oggi sbaglio tutti, in regia di là dal vetro. Cominciamo subito con i titoli di Sky TG24. L'ambasciata russa smentisce l'arrivo di Putin a Roma per vedere Berlusconi, oggi capigruppo del PDL ricevuti al Quirinale. Il PD freddo all'ipotesi di un'alleanza con i 5 Stelle, anche Grillo sbarra la strada e dice mai con PD e PDL, per me pari sono. Pranzo tra Letta, Saccomanni e Visco sui conti pubblici, secondo Banca Italia ci sono segnali di miglioramento. Entrate tributarie in aumento nei primi 6 mesi dell'anno, buone notizie sul fronte della lotta all'evasione fiscale. Uccisa da un pirata della strada all'italiana in luna di miele a Los Angeles, secondo i testimoni il conducente ha puntato i passanti. Allerta a terrorismo prolungata, ambasciate americane sotto sorveglianza, nelle intercettazioni frasi shock dei presunti attentatori. Colpevole di aver cospirato contro Erdogan, il tribunale turco condanna l'ex capo di stato maggiore Basbug, proteste fuori dall'aula. Primo hamburger di carne sintetica ricavata dalle cellule staminali di mucca, l'esperimento fa discutere la comunità scientifica. Sarebbe bello che spontaneamente, senza che nessuno la chiedesse, il presidente Napolitano passasse davvero alla storia e concedesse la grazia a Silvio Berlusconi. Mi domando veramente se ho seguito il suo sogno e continuo a seguirlo. Il suo sogno è il mio sogno, il sogno di milioni di italiani che anche oggi si vedono qua e sono soprattutto delusi dal fatto che qualcuno questo sogno ha sempre cercato di intracciarlo. Paradosso di un terzo d'Italia che non ha il suo rappresentante politico. Bisogna trovare una soluzione non ordinaria. Viaggio offerto dal PDL. Non avete pagato? No, niente. Perfino i panini, perfino le banane, perfino tutto ci hanno dato. Ci hanno pagato tutto, perfino le banane, dice questa signora. Non so se era una battuta involontaria sul tema dell'estate, cioè le banane, oppure se era una missione che, insomma, vabbè, ma questa cosa tutte le volte che ci sono le manifestazioni del PDL, Gabardini. Sempre le banane, eh? Ma in no, che senso il tema dell'estate non ho capito. No, le banane. La banane, la chiesa. Ah, ok, no, quello. Adesso ogni volta che sentiamo parlare di banane pensiamo a quello. Certo. Senti cosa è andata a scovare la nostra redazione. C'è lo zampino forse anche di Laura Marchesi, lo possiamo dire, per questo tema musicale, Raffaella Carrà. Bellissimo. Oh, la Biancofiore, che tra l'altro ha rischiato di far saltare il banco, è l'unica del governo che è andata alla manifestazione ieri. Berlusconi aveva detto no ai rappresentanti del governo, il governo va avanti. Lei però è andata e ha detto preferisco disubbedire in questo caso qua. Vogliamo sentire anche Roberto Fico del Movimento 5 Stelle oggi? Ha fatto alcune dichiarazioni, cominciamo a sentire qualcosa, perché si è parlato di una mano tesa del Movimento 5 Stelle al PD in questa fase di quantomeno di rapporti incrinati col PDL. Poi Grillo oggi è intervenuto, no, e ha smentito tutto di nuovo. Sentiamo però Fico. Adesso il Partito Democratico sta governando, ha l'appoggio nostro su una nuova legge elettorale che non sia presidenzialista, che non sia semipresidenzialista, ma che dia di nuovo forza al Parlamento, che quindi il Parlamento con la governabilità sia il centro legislativo del Paese, così come dice la Costituzione. facciamo la legge elettorale insieme col PD, 5 punti con chi ci sta, ancora Fico. Prima che Grillo parlasse e che smentisse di nuovo, sentiamo. C'è l'audio, eppure c'era, ce l'abbiamo l'altro audio invece di Fico, quello sul bondage, quello lì ce l'abbiamo, che usa questa espressione dell'arte amatoria per definire i rapporti tra il PDL e il PD. No, non c'è neanche questo, vedo facce sconsolate. Sì, c'è. Il Partito Democratico e il PDL, quindi PD e PDL, stanno facendo un gioco erotico molto forte che si chiama bondage. Loro sono estremisti e quindi che cosa fanno? Con un cappio al collo l'uno, un cappio al collo l'altro, fanno questa pratica erotica che si chiama bondage e spingono sempre di più, si stanno per strozzare, poi lasciano e si sta per strozzare l'altro, poi lascia fino a quando moriranno tutti e due. Non lo so, io credo che Fico questa cosa l'avesse pensata, che la voleva dire, poi mentre la diceva non è che gli venisse tanto, io non ho capito, cioè... Ma soprattutto che tipo di pratica erotica è che prevede la morte di entrambi? Cioè, di solito è per eccitarsi, diciamo, ma non proprio... Lo scopo non è morire. Erotica estrema, ha detto, sono due estremisti in questo momento e si stanno portando alla morte l'uno con l'altro. Va bene, ce l'abbiamo anche quell'altro Fico, quello sui 5 punti in cui ci sta? No. Vabbè, la cosa curiosa è che mentre tende la mano dicendo al PD facciamo la legge elettorale insieme, poi dice il PD si sta stringendo in questo abbraccio mortale con il PDL. Poi è intervenuto Grillo, ha di nuovo smentito qualunque maggioranza alternativa. Sentiamo anche un po' di Lega? Facciamo velocemente anche un po' di Lega. Le due Lega, se vogliamo. Salvini... di nuovo in polemica con la Kyenge e poi Tosi che invece, come sappiamo, ha incontrato il ministro Cécile Kyenge e gli ha chiesto scusa a nome della Lega per gli insulti che le sono arrivati. Ci menano il torrone da 15 giorni sul ministro Kyenge, per carità di Dio, io l'ho ripetuto anche oggi, potrebbe essere alta, bionda, con gli occhi azzurri, essere nata sul lago di Comabbio. Il problema del ministro Kyenge non è il colore della pelle, sono le idee folli che porta avanti, una che vuole togliere il velo alle suore, una che vuole togliere il reato di immigrazione clandestina, una che vuole regalare la cittadinanza a chiunque nasca qua solo per il fatto di nascere qua, è un pericolo pubblico. Solidarietà di Verona, mia personale, per gli insulti che mi sono stati rivolti. Ed essendo io anche parte politica, perché rappresento una parte politica, le porgo le mie scuse se qualcuno della mia parte politica l'ha offesa. Si capiva non tanto bene, ma era il sindaco di Verona Tosi che chiedeva scusa al ministro Kyenge presente per gli insulti, appunto. Salutiamo Michela Biancofiore, sottosegretario. Buonasera. Alla pubblica amministrazione. Buonasera, grazie a voi per l'invito. Ci ha raggiunto, eccola qua, ci fermiamo un secondo, Biancofiore, perché dobbiamo fare il traffico. Poi ci dirà come lei ha disubbidito in qualche modo alla richiesta di Berlusconi, rischiando quasi di far saltare l'equilibrio di governo, perché lui aveva detto niente ministri. Lei, sottosegretario, è andata. Adesso vediamo, poi ci racconterà perché e per come è andata. Traffico, good news e traffico. And now the good news. Generi alimentari in cambio di rifiuti. Da qualche mese in tutti i comuni delle Alte Madonie in Sicilia sono comparsi gli ecopunto, le botteghe del baratto, dove è possibile scambiare materiali riciclabili con generi alimentari di prima necessità. È un modo per risparmiare e fare bene all'ambiente. Ricevere un rifiuto da queste parti fa solo piacere. Si può fare l'attualità anche d'estate. Oh, intanto ricordiamo anche tutti i nostri contatti 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra pochissimo. Prima facciamo l'intervista con l'onorevole Biancofiore, che è già con noi. Ricordiamo 342 38 6666 per i vostri SMS. C'è già una piccola polemica: chi va alle manifestazioni dei sindacati paga? Chiede un ascoltatore. Vabbè, insomma, questa ogni volta che ci sono manifestazioni politiche, qualcuno dice che è stato accompagnato, gli è stato pagato il biglietto, qualche polemicuccia c'è. Poi su Facebook si può fare trattino Radio 24, siamo anche su Twitter, si può fare 24. Mi scusi, Michela Biancofiore, abbiamo ricordato un po' i nostri contatti perché è lunedì, dobbiamo ingranare la marcia. Intanto dicevamo, lei ha disubbidito a Berlusconi, oppure non c'era un ordine chiaro di non andare alla manifestazione per chi è al governo? A me non è arrivato nessun ordine chiaro, in ogni modo questa volta gli avrei disubbidito, perché io dal 1994, da quando avevo 23 anni, che gli sto accanto, e figuriamoci se non gli debba stare accanto in questo momento così delicato sul piano umano per la sua persona, per lui e per il paese, perché certo, ricordiamoci che insultare Berlusconi significa insultare anche ideologicamente 15 milioni di italiani che lo hanno votato in questi anni, e che secondo me sono quegli italiani che dovrebbero riunirsi in una class action per dire basta, per urlare la loro indignazione a 20 anni mancati di riforme, perché Berlusconi è stato scientificamente impedito dal 94 ad oggi di governare il paese che lo ha eletto. Sì, intanto però 7 milioni di elettori alle ultime elezioni, adesso, non 15. Ma negli anni sono stati 15 milioni di elettori, quindi sì, anzi forse qualcosa anche in più. Adesso, in passato, adesso alle ultime elezioni 7, alle ultime elezioni 7. Senta, però non ha rischiato, cioè se altri del governo fossero andati alla manifestazione, il PD si fosse innervosito per questo, rischiava di saltare il governo? Perché io ci sono alcuni retroscena che dicono in questo momento al PDL non conviene andare a una crisi, perché se il PD dovesse andare a un abbraccio col Movimento 5 Stelle, voi restereste in minoranza, quindi bisogna tenerselo un po' stretto questo governo. Ma guardi, io non sono di questa scuola di pensiero, io credo che al PD convenga stare al governo col PDL, anche perché ogni volta che si va al voto loro perdono l'elezione. Siccome anche se facessero un governo con i grillini durerebbe 5 giorni, posto che poi lo stesso sciamano dei grillini Casaleggio ha detto che appunto non ci sarà mai questo abbraccio mortale. Lo sciamano dei grillini, se lo facessero durerebbe 5 minuti, e questo agevolerebbe ancora di più la nostra vittoria elettorale. Peraltro non ero l'unica sottosegretario presente, sono stata orgogliosa di vedere altri miei colleghi di partito essere lì presenti col cuore vicino a Ma di governo però c'era solo lei, Biancofiore, di governo? C'erano anche il sottosegretario Santelli, il sottosegretario Cirillo, il sottosegretario Vicari, diciamo che io sono quella che notoriamente insomma grida di più a certi scandali, sempre, insomma, e che comunque sia ci mette sempre la faccia, cioè, la metto molto volentieri, perché sono orgogliosa dei principi e dei valori che mi sono stati insegnati dalla mia famiglia e da Silvio Berlusconi in primis, e cioè soprattutto quello della gratitudine. Noi tutti dobbiamo qualcosa a Silvio Berlusconi, questo paese che è stato fino ad oggi molto ingrato nei suoi confronti, per il quale appunto lui ha dato il sangue, ha donato il sangue in ogni senso. Però c'è anche una parte degli italiani, Biancofiore, che non ne vuole più sapere di Berlusconi, bisogna dire anche questo. Sai qua, la leadership è tale. Voi dite per esempio, è chiaro, ogni parte politica però, scelge il suo leader. Posso assicurare che anche tra amici vostri della stampa in queste ore, in questi giorni, non si è sentito altro che dire effettivamente non c'è assolutamente un nulla nella sentenza che possa condannare. Vabbè, ma la sentenza lasciamola da parte, perché però, ognuno poi esprime. È fondamentale, c'è una persecuzione giudiziaria ad opera del primo leader di centrodestra. Però c'è anche una sentenza definitiva che va rispettata, e su questo non ci piove. Io mi sento di non rispettarla, per quanto io sia... Ognuno si sente di fare quello che crede. Biancofiore, però la domanda è un'altra, è questa. Lei non può però impormi di rispettare una sentenza. No, io non le impongo nulla. Le carte processuali, e lei ognuno fa quello che crede, Biancofiore, ma non ci sta niente di ascrivibile a Silvio Berlusconi, perché non c'è una prova quindi. Va bene, questo lo crede lei, e ci sono altre persone che credono diversamente, ma non è questo il punto. La domanda era un'altra. Voi dite andiamo alle elezioni, Berlusconi sbancherà, perché in questa condizione di comunque di vittima, di perseguitato da parte della giustizia, prenderebbe un sacco di voti. Ma non pensa invece anche a un effetto contrario, cioè l'ennesimo referendum elettorale su Berlusconi? Ripeto, alle ultime elezioni avete preso 7 milioni di voti e non è detto che questi milioni di voti crescano. Chi lo dice che dovranno crescere? Potrebbe succedere il contrario. Io ne sono assolutamente convinta perché credo che appunto in Italia non ci sia ormai un italiano, anche di centrosinistra, che non creda che Berlusconi è vittima di una persecuzione. Ma questo lo dice lei, non è vero, mi confio. Ci sono pieni giornali di commenti opposti. Per cortesia, perché è inutile che mi intervista altrimenti. Se fa lei l'intervista... No, ma lei dice che gli italiani di centrosinistra la pensano... Io dico che leggendo i giornali non è così. Io ho tanti amici, ma anche addirittura in Parlamento, che ti dicono effettivamente è stato perseguitato, e questa cosa non ha giovato soprattutto al PD, non al PDL, e loro ne sono perfettamente consci. Ah, perché nel PD c'è gente che non vuole stare con un condannato, no, se ne riempie la bocca, non ha fatto altro che dire questo, lo ha detto persino il segretario del PD Epifani, è da loro che noi non possiamo accettare diktat. A me non interessa se dà fastidio o meno al PD se io partecipo ad una manifestazione, mi preoccupa di più che oggi il Premier Letta è a Bolzano a firmare un protocollo di intesa, incontra i parlamentari del PD e dell'SVP, non incontra il PDL e soprattutto non ha avvertito il suo sottosegretario di governo. Forse insomma bisogna questa è un'altra cosa, cioè, parti, mi spieghi insomma, questa cosa, cos'è che è successo? Letta non ha incontrato nessuno non l'ha avvertita che andava a Bolzano, il suo collegio non ha neanche notiziato, per la verità non ci ha notiziato, l'abbiamo saputo a mezzo stampa. Incontra i parlamentari del PD e della sezione False Party, cioè quelli che facevano parte del cartello elettorale di Bersani sostanzialmente, non del suo, e purtroppo non ha notiziato. Infatti ci sono manifestazioni fuori dal palazzo provinciale, che è troppo facile stare insieme a Roma, chiedere i voti a Roma e poi fregarsene a Bolzano. Però io non è... Ma era una manifestazione elettorale, ma però Biancofiore, da questo è certo, in campagna elettorale tra due mesi si vota in consiglio regionale a Bolzano, allora sarà per quello forse probabilmente, ma sì, però non è carino, ecco, diciamo che non c'è galateo istituzionale. Sì, però non c'è stato uno sgarbo istituzionale, è andato lì per una manifestazione politica, è andato lì a no, non è andato lì per una manifestazione politica, le sto spiegando se hai l'ardire di ascoltarmi, è andato lì a firmare un protocollo d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, salvo poi incontrare solo i parlamentari del PD e delle SVP ed evitare completamente di invitare A, il suo sottosegretario territoriale, che nella fattispecie sarei io, B, i parlamentari e comunque sia gli esponenti del PDL locale. Questo non è carino. Se si chiede a noi di non partecipare ad una manifestazione, peraltro non è arrivata da nessuna parte, del nostro leader è umana, figuriamoci poi quando poi queste cose si fanno. Vabbè, ma sono due cose che sono completamente diverse. Torniamo alla manifestazione di ieri. Quanti eravate? Perché il giornale a un certo punto ha scritto centinaia in via del plebiscito, poi dopo migliaia. Quanti eravate? Ma eravamo 25.000 circa, facendo un calcolo dei 500 pullman che sono partiti, eravamo circa 25.000. Ma guardi, il 4 agosto... Io le dico che qua intorno c'è gente che sorride, Biancofiore, c'è gente che sorride a 25.000. Perché forse eravate un decimo. In un giorno di organizzazione non è che è stato un successo, è stato uno strasuccesso, ma questo si vedrà sempre nelle urne, vede, io sette mesi fa perché non è stata proprio una manifestazione oceanica, che Berlusconi avrebbe vinto le elezioni, di fatto le elezioni le ha vinte Berlusconi, non è un caso per cui il PDL sta al governo, quindi stia tranquillo che vedrà come ma si io sono tranquillissimo anche tutto questo. No, io le ho chiesto quanti eravate e quando lei ha detto 25.000 ho visto gente che sorrideva qua intorno, perché sembrava eravamo 25.000 e secondo me eravamo tantissimi. No, io le ho detto, il giornale ha scritto centinaia, poi ha scritto migliaia, il giornale. 25.000, guardi, conclamati, è dato ufficiale del PDL e anche della questura. Anche della questura ha detto 25.000? Sì. Va bene. Cosa sono andati a dire oggi Schifani e Brunetta a Napoletano? Lei lo sa? No, io non c'ero in quell'incontro. Credo che se fossi stato in loro non avrei chiesto la grazia, perché credo che il Presidente della Repubblica sia assolutamente saggio e sufficientemente saggio per comprendere da solo e per avere, come dire, l'ardire da solo di comprendere che la grazia a Silvio Berlusconi è necessaria per il semplice fatto che lui A è un innocente, B è stato appunto il leader del centrodestra, ma soprattutto il 4 volte Presidente del Consiglio italiano. E il discredito, questo però non mette al riparo da una condanna a Biancofiore, cioè uno può essere stato anche 8 volte leader come è gettato sull'Italia. Napolitano sa, come lo so io, come lo sanno gli italiani intellettualmente onesto, che Berlusconi è innocente. Senta, e se Napolitano non desse la grazia, cosa che sembra che farà, cioè che non farà, cosa resta da fare? per salvare Berlusconi? Resta, ma non, purtroppo Berlusconi non si salva a questo punto, resta da salvare il suo pensiero politico, la sua idea, la sua rivoluzione, quindi serve continuare col suo simbolo, con Forza Italia, con lui che comunque sconterà la sua pena di un anno in un modo o in un altro e che oggettivamente ci guiderà comunque alla vittoria del paese. Quindi lei sembra quasi rassegnata al fatto che dal punto di vista, no, diciamo, dell'agibilità politica, io credo per Berlusconi. Non sono affatto rassegnata, anzi io sono... No, ma lei ha detto Berlusconi non si salva, si salvano le sue idee politiche. Non si salva se non c'è la grazia, questo è talmente banale, appunto, abbastanza evidente. Quindi, questo è evidente, insomma, lo sarebbe anche insomma, un cieco capirebbe. Però questo, mi scusi, Biancofiore, ci faccia questo ragionare, però, perché 48 ore fa, 48 ore fa, mi scusi, mi faccia fare la domanda, no mi faccia finire la domanda. Perché... la domanda e poi si fa no, la risposta. Gliela devo finire la domanda, perché sennò non ha senso. Allora guardi, finisca anche l'intervista da solo, se non mi fa finire le domande. Va bene, allora ci salutiamo qua, arrivederci Biancofiore, se non vuole che le faccia la domanda. La domanda è questa, Biancofiore, la domanda è questa: 48 ore fa avete detto che andavate da Napolitano a chiedere la grazia. Però le domande se le vuol fare da sola, Gabardini, a questo punto puoi intervenire anche tu. Cosa? Dico che ci sono momenti in cui sono contento che il mio stage, diciamo, mi vieti di parlare con gli ospiti. Non è facile parlare con la Biancofiore. Però la domanda era questa: se ci ascolta, io la rifaccio, magari poi la riprendiamo. La domanda è: 48 ore fa avete detto di chiedere la grazia a Napolitano, quindi questa sembrava la cosa in campo. Adesso ci dice Berlusconi non si salva, si salvano le sue idee politiche. Allora io capisco che in queste ore è stato fatto un passaggio, diciamo, accantonata, assorbita la botta. Adesso nel PDL si ragiona su qualcos'altro, sul futuro politico del partito, ma non di Berlusconi. Biancofiore, io lo sono contento dell'interruzione, perché in realtà volevo rompere l'embargo. No, volevo rompere l'embargo, perché mi scrive su Twitter, non leggerlo, mi scrive la Biancofiore ha appena detto alla BBC che tutti gli italiani sono innamorati di Berlusconi, diteglielo che non si fa. Quindi ti volevo trovare, stavo cercando il modo per comunicartelo, però ha attaccato prima lei il telefono. Ho provato a dirglielo che c'era qualcuno che non ne può più di Berlusconi, legittimamente, come c'è chi, come lei, lo vorrebbe tutta la vita presidente del consiglio, ma anche del condominio e di tutto. Chissà se il giornalista della BBC le ha fatto la stessa, le ha opposto la stessa cosa. Sì, però è riuscito a chiederglielo un po' prima, purtroppo adesso ormai è iniziato l'happy hour e non la becchiamo più la Biancofiore. Recuperiamo il filo 800 24 00 24, tra poco con i vostri interventi. Adesso Borsa, prima la nostra good news. And now the good news. A Roma i detenuti si prendono cura della città. Per quasi un anno i detenuti di Re Bibbia si sono occupati delle aree dei Fori Imperiali, del Campidoglio e di altri gioielli della capitale, svolgendo lavori di manutenzione e giardinaggio per 4 ore al giorno. Si tratta di un lavoro socialmente utile che rende Roma ancora più bella e più capoccia. Si può fare. L'attualità, anche d'estate. 18:33 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, 800 24 00 24. Adesso cominciamo subito a sentire i vostri interventi. Intanto abbiamo fatto un controllo, abbiamo chiamato in questura a Roma per chiedere il dato dei 25.000, che secondo la Biancofiore era un dato ufficiale della questura. Ebbene, ci hanno detto che loro non rilasciano più dati ufficiali perché ogni volta vengono strumentalizzati, quindi non ci sono dati ufficiali della questura. Quindi questo per smentire quello che ha detto l'onorevole Biancofiore. Se ci vuole... anche la cosa che ha detto, che mi sembrava strana, è che nella sentenza non ci sta niente di ascrivibile a Silvio Berlusconi. Mi sembra un po' strano, nel senso che la Cassazione si è espressa, mi sembra un po' vabbè, ma strano. Qui si entra nei meandri della sentenza, cioè, e quindi poi ognuno ne parla come vuole, o si può anche non parlarne. Agli sms c'è un commento, vediamo se lo ritrovo, su Valentina Vezzali. Dice: oh, campionessa incredibile sicuramente, ma abbiamo bisogno di parlamentari così, perché sai che è tornata in pedana alla grande, 80 giorni dal parto, però lei è parlamentare, Gabardini, e quindi dovrebbe stare in Parlamento, non in pedana, o forse no, dovrebbe stare in pedana e non dovrebbe stare in Parlamento, anzi. 800 24 00 24, iniziamo con Paolo che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera Paolo, prego. Allora, intanto una chiosa, intanto complimenti per aver incalzato la Biancofiore, ma questa è soltanto una chiosa, non tanto per perché mi dà soddisfazione che una persona non possa parlare in maniera così libera e diretta, ripetendo a cantilena cose trite e ritrite che poi non danno nessun valore al dibattito. Però io volevo fare in realtà un intervento di questo tipo, cioè Berlusconi è stato condannato, bene, però bisogna avere rispetto delle persone. Premetto, io non ho votato Berlusconi, però bisogna avere secondo me rispetto di quell'elettorato che comunque dà forza a Berlusconi. Quindi secondo me il dibattito non deve essere polarizzato sul pro e contro Berlusconi. Berlusconi è una realtà, quindi bisogna in qualche modo convivere con questa realtà, cercare di ragionarci insieme. Una volta che le persone raggiungono un risultato, bisogna dargli adito di questo risultato e poi governarci insieme. Questo è un aspetto che secondo me bisognerebbe cercare di mettere in campo da un punto di vista politico, altrimenti il rischio è che appunto uno contro l'altro, però poi di fatto si perdono, diciamo le cose importanti da considerare, cioè lo stato ad esempio di salute della nostra economia. Le pagine dei giornali sono piene attualmente soltanto di questo aspetto, insomma mi sembra veramente mortificante per milioni e milioni di persone che vivono male. Va bene, grazie Paolo, grazie, buona serata. Intanto tu cosa stai? Hai già cominciato a twittare Gabardini, però stasera devi stare un po' più attento perché sei sempre su Twitter con i tuoi follower. Ma io faccio lo stagista e twitto e basta. Io ho praticamente, semplicemente mi avete affittato una seggiola qua, questo faccio e scrivo dei tweet. Hai scritto qualcosa di interessante? No, recentemente? Dall'86 non scrivo niente più interessante, direi. Paola da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Senti, io sono indignata veramente, mi sembra di usare un vocabolo forse trito ritrito, ma io non ne posso più di sentire questi discorsi, guardi, le dico veramente. Quali, nostri? Quali? No, per la carità di Dio, no, non lo chiamo neanche onorevoli perché secondo me non sono neanche degni di essere chiamati tali. Se lei ascolta Biancofiore, Santanchè, sì, Brunetta, sono tutti omologati a dire le stesse identiche cose, con la stessa tracotanza, la stessa arroganza, la stessa mancanza di rispetto. Io mi sono veramente stancata, guardi, le dico la verità, basta. Che vuol dire? Io ho cercato di farle delle domande e poi lei si è imbizzarrita, se n'è voluta andare perché dice che non la facevo parlare. Mi sembra che abbia parlato. Ma sì, ha parlato e ha detto tante di quelle segnacce che, anzi, come l'ascoltatore precedente, io la ringrazio per averla incalzata. Ma non se ne può più, ma veramente, ma come si fa a parlare in questo modo e non lasciar parlare gli altri? Parla di 25.000 persone, ma guardi che a colpo d'occhio lei ha visto quanta gente c'era lì davanti. Tra l'altro a quella palcoscenico che è stato eretto, non so se ha letto, abusivamente, hanno tagliato anche dei cartelloni stradali. Questo glielo volevamo chiedere, però non abbiamo fatto in tempo, il famoso palo della segnaletica stradale che è stato segato, esatto, con tanto di foto per far spazio. Ma lei era in piazza, signora? Come? Lei era lì in piazza o l'ha vista in televisione? No, io l'ho vista in televisione, ma c'era 25.000 persone, era quasi colpo d'occhio impossibile averle viste, 25 certo. persone tutte in una volta, primo. Secondo, cioè basta, ma veramente, ma questi qui parlano tutti uguali, ma non le ricorda un po' i venti degli anni 20? Questo modo di parlare e di affrontare le persone che li contestano, ma non esiste. Ma no, ma sono persone, la Biancofiore crede ciecamente in Berlusconi e è quello che esprime. O è innamorata o è pagata, non ci sono alternative. Però ognuno a modo suo, diciamo, non è che parlano proprio tutti uguali. Bondi parla di guerra civile, lei parla di innamoramento di tutti gli italiani. La tracotanza è la stessa e realmente mi ricorda tantissimo un modo di esistere e di parlare prefascista. Cioè, veramente uguale. Ma siamo lontani anni luce, però, da quell'epoca lì. Cioè, siamo in una democrazia. Io spero che non siano peggio, abbia pazienza. Ma no, ma siamo in una democrazia, va tutto bene, ognuno dice quello che vuole, dice quello che crede. Lo stesso Berlusconi ieri non ha fatto dichiarazioni realmente avversive, si è preso con la magistratura, lo fa da anni, e del resto è un punto di vista anche quello, certo. Guardi, un punto di vista stufa, istituzionalmente di un po' irriverente, mettiamola così, però non c'è niente di nuovo, non c'è stato niente di molto avversivo ieri, e quindi secondo me gli anni 20 che lei dice non c'entrano nulla. Ma poverino, nulla. Lui ormai è così. Sì? È sugli anni del tramonto, ormai poverino, lui conta come due di picche secondo me. Il problema è il berlusconismo, ha capito? Questa è la cosa che mi fa paura. È quello paura che diceva oggi anche l'ascoltatore di prima. Grazie Paola. Però che conti come due di picche mi sembra un po' poco. Diciamo, direi che conta un po' di più, su. Beh, no. L'ha ridimensionato un po' la signora, due di picche forse è troppo poco, però sì, la stessa Biancofiore cosa ha detto? Ha detto Berlusconi non si salva, si salvano le sue idee. Certo, Berlusconi conta ancora moltissimo, però è indubbio che siamo in una fase di passaggio nella quale lui sbraccia, smanaccia, ma non si sa quanto sarà in grado di incidere. Ma poi piangeva quasi ieri in piazza, io di questo spero che i nostri ascoltatori parlino. Perché quasi piangeva, insomma, voglio dire, vedere Berlusconi in piazza che piange è stato un momento storico, no? Una novità. Sì, questa novità di sicuro. Stasera chiamano solo persone che si chiamano Paolo. Paolo da Brescia, buonasera. Sì, buonasera a voi. Prego. Niente, condivido in parte quello che ha detto la signora Paola prima di me, perché mi sembra che ormai ci siano anche dei talebani anche in Italia, non solo nel Medio Oriente. Cioè, è possibile? Io non, sinceramente, da cittadino, non riesco a capire come mai i giudici e la giustizia siano così considerati così accaniti contro Berlusconi. È possibile che tre gradi di giudizio e tutti i giudici fossero tutti schierati, tutti di parte e tutti contro Berlusconi? Non riesco a capire come mai non si mette in dubbio che lui possa essere colpevole. Voglio dire, in sostanza è accusato di una triangolazione per tenere degli utili all'estero, quindi non è così inusuale, così incredibile quanto è stato fatto. E voglio dire, tre gradi di giudizio dovrebbero essere sufficienti per dimostrare che c'erano delle prove al riguardo. Quindi questa difesa sempre e comunque da parte dei suoi mi fa pensare molto ai talebani. Un'altra cosa che ha detto la Biancofiore è che ci vorrebbe una class action per difendere Berlusconi. Io penso che ci vorrebbe una class action da parte degli azionisti di Mediaset per vedere se effettivamente sono stati danneggiati e se parte di quelli che dovevano essere i loro legittimi dividendi sono invece finiti altrove. Ah, per questa diciamo evasione, sì. Non so se è legata al titolo, no. Non credo che sia molto legata al titolo. Sta però andando molto bene in questo momento il titolo, lo so, ho capito. Questo si collega con il sangue che avrebbe donato Berlusconi, secondo la Biancofiore. Secondo me lui ne ha attinto molto di sangue dalle casse degli italiani, però è una mia opinione che andrebbe supportata da dati e da valutazioni di bilancio. Però voglio dire, i fondi che sono rimasti in America, secondo questa sentenza, sì, avrebbero essere dovuti dei profitti ulteriori di Mediaset che avrebbero dovuto andare nei dividendi. Beh, sì, tecnicamente ha ragione lei, se c'è stata una distrazione di fondi, però credo che questo sia nei rivoli anche del processo. Adesso non so se coinvolge anche gli azionisti, può darsi una class action, perché no, ci sta tutto in Italia. Grazie Paolo, andiamo a Michele che ci chiama dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo dire a tutti questi figuranti che sono andati lì, pochissimi per fortuna, diciamo, alla manifestazione di Berlusconi, che senza di lui, diciamo, questi vanno lì per forza, perché senza di lui non sono nessuno, avrebbero fatto tutti altri mestieri, ecco. Ma allora perché una persona che viene condannata in via definitiva, in Cassazione, diciamo, vuole la grazia, vuole il salvacondotto, ma levati da mezzo, c'hai 80 anni, ti sei comprato una fidanzata ma che cosa ti vuole? Sei comprato addirittura la fidanzata, dice lei. Sì, ma se la comprava, quella è una figurante, figurati, a 80 anni cosa deve fare questo qua? Magari è amore, chi lo sa? Ma ha sentito amore, la Biancofiore, cioè, questo è amore puro, Mi faccio una cosa di Michele. Amore, c'era la pelle oggettiva che manco le toccava. Cioè, il problema è che quest'uomo è un cancro della democrazia e tutte queste persone, Brunetta, queste sono figuranti davanti al padrone. Che cosa vogliamo fare? Ma perché questo non se ne va? Si è fatto tanti soldi, non sappiamo come, con la pubblicità, ma che cosa vuole più? Cosa vuole sfruttare ancora? Ma lei, Michele, ma il fatto che, perché tutti prendono di mira Berlusconi, però come ha detto giustamente un ascoltatore, l'ha detto anche Gabardini, non so perché ti rendo merito di questa cosa, ci sono gli elettori che poi in massa hanno votato alle scorse elezioni 7 milioni di voti, non 15 come dice la Biancofiore, ma 7 milioni. Cioè, bisogna fare i conti anche con questo. o no, Michele? La prima volta poteva illudere, ma adesso dopo 20 anni che ha rovinato l'Italia, che ci troviamo con un debito pubblico così che aumenta mano a mano, la gente non arriva la prima settimana del mese, questo ancora sta a parlare di principi e da Biancofiore che avrebbe fatto chissà quale mestiere, i principi, la mia famiglia, quale famiglia? Ma quale famiglia? Questa è gente che è stata graziata da questo signore. E quindi va bene, Michele, abbiamo capito. Grazie. Intanto sarebbe bello capire e chiarire anche questa cosa che ha detto però la Biancofiore sulla visita di Letta, la firma del protocollo e il fatto che non ha incontrato nessuno del PDL e non aveva avvisato la Biancofiore, che è sottosegretario di quella zona, quindi ci poteva anche... proprio lei, perché mi sembrava interessata personalmente, offesa un po' personalmente, direi. Ma lei ha parlato di uno sgarbo istituzionale per questo. Ora io non lo so se nelle more dei rapporti istituzionali ci poteva stare un avviso, però insomma se Letta, tra l'altro sono in campagna elettorale, ha fatto questa cosa e non ha incontrato nessuno del PDL, beh insomma potrebbe essere, però non lo so, perché già Biancofiore ne ha dette alcune che poi sono state smentite, quindi magari era un po' presa dalla foga agonistica. Facciamo il traffico, prima una good news e poi lo salutiamo subito. Sì, ci ha raggiunto il sindaco di Santa Margherita Ligure, Michele De Marchi, buonasera. Buonasera, Roberto De Marchi. Ah, ecco, vedi, dalla redazione mi ha scritto Michele, perché è uno dei comuni, informo il nostro stagista Carlo Gabardini che è qua in studio con noi, dove sono stati fatti i controlli fiscali nel weekend. Certo. Però io non posso parlare col no, l'ospite. No, ma intanto stiamo parlando. Certo, certo, giusto, giusto, giustissimo. Torniamo tra un attimo, traffico. And now, the good news! Lemma Iala in toscano significa la situazione è grave ed è anche il nome del primo ristorante dove il conto si paga con il metodo del baratto. Al momento della prenotazione si propone un oggetto qualsiasi in cambio della cena. Dagli ortaggi agli arredi, dai libri ai DVD, si accetta tutto, ma prima vedere cammello. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua con il sindaco di Santa Margherita Ligure, dove sono stati fatti i controlli fiscali nel weekend. Ci sono state un po' di reazioni, come capita spesso. Lei ha parlato di stato di polizia per questa cosa? No, per la verità mi è stato riferito da alcuni clienti che erano rimasti seccati di questo modo. Io ho semplicemente rilevato che fare questi controlli un sabato sera di agosto, quando sì, i locali sono nel pieno della loro attività, comporta una condizione di tensione e al tempo stesso una diminuzione della qualità del servizio, che in un momento di grave crisi per il nostro paese, per le città turistiche come la nostra, non va bene, perché noi stiamo facendo un grande sforzo per qualificarci rispetto al turismo internazionale, che sul piano del costo è molto più competitivo di noi, con la qualità dei servizi, e questo non ci aiuta, insomma. Vabbè, ma è un'eccezione, però non è che tutte le sere, però mi scusi, se non li fanno tra l'altro il sabato sera d'agosto, quando c'è il pienone lì da voi, quando dovrebbero farli i controlli dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate? Ma guardi, io penso che l'evasione, se c'è, c'è tutto l'anno e in ogni giorno della settimana. Beh, però ammetterà che c'è più, insomma, voglio dire, c'è un concentramento adesso di gente in vacanza, e soprattutto in quei posti lì. Ma non è che il martedì l'evasione sia minore, se c'è. E quindi... Ma se l'avessero fatto di martedì cambiava qualcosa? Beh, cambiava nel senso che i gestori avevano molto più tempo da dedicare agli investigatori. Però gli investigatori vanno proprio per cercare, avendo fatto prima dei controlli, dei dati incrociati, dove c'è un po' di massa. Certo, ma questo è comprensibile o no? 50 clienti il martedì e 150 il sabato. E beh, se il livello di evasione è del 20% il martedì, sarà del 20-30% il sabato, non cambia. Del resto, su 24 ore di ieri è uscita questa nuova applicazione dell'Agenzia delle Entrate Sonor, no? Che va a beccare addirittura gli italiani che utilizzano l'estero per evadere. E noi abbiamo bisogno nel 2013 di fare i controlli de viso e de mano È quello il problema. Ci sono gli studi di settore, ci sono una serie di altri parametri. E beh, si sia severi nel vedere se gli imprenditori stanno dentro i parametri e dentro gli studi di settore. Beh, ma evidentemente invece servono anche questi controlli qua. Lei crede che ci sia un po' di evasione nei ristoranti della zona, dalle parti vostre? Ma magari qualche libero professionista che ha intascato qualcosa in nero, no, da una parcella e poi va all'albergo, paga e tutto in nero? Ma credo che sì. Sarebbe negare un'evidenza che nel nostro paese questo è un problema. E allora però bisogna controllarle come, queste cose o no, secondo lei? Sì, cioè bisogna lasciarle fare o no? Il problema è questo, perché nel nostro paese, cioè il gatto che si morsica la coda, la pressione fiscale nel nostro paese è altissima, bisogna pagare tutti per pagare meno, bisogna pagare meno per pagare tutti, non ne usciamo. Io quello che mi preoccupa, lo dico da sindaco, che è vicino alla gente, ne sente gli umori, quello sì. Che mi preoccupa è che alcuni comportamenti, anziché avvicinare allo Stato e alle istituzioni cittadine, li allontanano. Ma però, scusi, se io sono un ristoratore che fa tutto nella regola, nella norma, così come lo fanno i clienti, arriva l'Agenzia delle Entrate e controlla, non ho nulla da temere, anzi, semmai dico, guarda, vedi, finalmente un po' di legalità. Cosa, sì, perché infatti uno dovrebbe allontanarsi dallo Stato? Se... Ma lo so che è successo proprio così, eh? Cosa è successo? Il fatto che io abbia fatto quella affermazione, sì? Diciamo, di inopportunità è anche motivato dal fatto che poi alla prova dei risultati sono stati i risultati tutti buoni per gli imprenditori sammagheritesi, che erano sostanzialmente nella regolarità. E quindi non ho capito qual è la sua conclusione. La mia conclusione era, a maggior ragione, sì? Possiamo essere un po' più sereni nel dire che era una questione anche di inopportunità, se si è rivelato che poi sostanzialmente gli imprenditori erano in regola. Vabbè, uno fa i controlli, non è che può sapere prima quali sono i risultati. Ma quindi secondo lei l'Agenzia delle Entrate rifà questi controlli per fare un po' di agitare un po' di fumo negli occhi alla stampa? Io penso che sia un po' pubblicità progresso. Ma può servire anche questa pubblicità progresso per far capire alla gente che bisogna pagare le tasse, bisogna fare tutto non in nero, oppure no? Perché potrebbe essere anche questo. Uno fa un po' di fumo, un po' di cancan, intanto gira la voce e così... L'importante è che non ci limitiamo a questo. Senta, ma quanto... Vanno avanti anche riforme più sostanziali. Glielo dice uno che i suoi commercianti non li tratta bene, perché cosa li fa? Non mi fanno sufficiente differenziata, per cui la TARES è molto alta, sì. E io vado ripetendo che è colpa loro, quindi non li liscio mai dal pelo per il verso giusto. Io sono abituato esattamente a dire le cose che penso, come le ho dette in questa occasione, anche ai miei concittadini. Senta, ma quanto può costare una cena in un ristorante del centro di Santa Margherita Ligure? Oh beh, intanto la Santa Margherita Ligure ha una eccellenza enogastronomica negli ultimi anni di grande valore, e si viaggia dai 30-35 euro per una cena non a base di pesce ai 50, 60, anche 70 euro. Se lei mi va in un ristorante sul mare, sotto la bellissima abbazia della Cervara, è un ristorante lì quanto... di Don Lo, beh, io immagino che sia pronto anche a capire che quella è una location che richiede un certo impegno. E per un pernotto, quanto può essere un pernotto a Santa Margherita Ligure, in un albergo medio? Abbiamo una grandissima varietà di alberghi, dai 5 stelle alla stella, e quindi si può viaggiare dagli 80 euro ai 250-300 euro. Quindi insomma nella media mi pare di capire che siamo comunque in una forchetta, siamo un po' nella parte più alta che nella parte bassa, quindi... Santa Margherita è una città turistica di eccellenza. Sì, no, siccome si dice che bisogna colpire sempre i più ricchi nell'evasione, nella lotta all'evasione, e non i soliti tartassati, allora mi viene da pensare che hanno fatto bene andare lì e non altrove. Guardi, io penso che l'evasione fiscale si realizzi tanto nel quartiere di Genova San Pier d'Arena quanto a Santa Margherita. in termini assoluti è così. Beh, ma in termini però di scambio monetario no, perché le cifre contano, anche questo sì. Conta. In termini di fatturato lei dice. Sì, sì, sì, perché poi l'obiettivo è quello di recuperare anche un montante che sia una cifra sostanziosa, e quindi è chiaro che vengono a Santa Margherita Ligure e non vanno in un posto dove ci stanno i poveracci. Beh, è quello che noi ci auguriamo, anche se devo dire la verità, con un luogo comune troppo semplificatorio si guarda a Santa Margherita e a queste, o ad Alassio, come cittadine risparmiate dalla crisi. In realtà questa è una crisi molto diversa dalle precedenti e ha lasciato i segni sulle nostre carni esattamente come in molti altri paesi. Va bene, grazie al sindaco Roberto De Marchi, buona serata, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Tu dove vai in vacanza, Capardi? No, non diamo informazioni. Non vado in vacanza, sono qua a fare lo stage che è in vacanza. Niente. Lo so. Ho deciso che siccome ci metto 35 minuti di motorino a venire qua in radio, è secondo me sarò abbronzatissimo a fine d'agosto, ma sarò rimasto qua a Milano. Dal gomito in giù. Esatto. E poi scusami, ci scrivono, per chiudere sulla Biancofiore di prima, scrivono a noi di Si può fare che per arrivare a 15 milioni di voti la Biancofiore somma Senato e Camera. Non ho ancora capito come funziona, mi faceva ridere. Giornale Radio, a tra poco. And now, the good news! Librarsi è il nome di un caffè libreria inaugurato a Bolzano circa un anno fa. L'hanno aperto due donne che erano rimaste senza lavoro, in un quartiere dormitorio e in un momento in cui le piccole librerie chiudono per crisi. Eppure, la formula del caffè libreria va a gonfie vele. A volte con la cultura si mangia. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, vi aspettiamo per intervenire in diretta. Naturalmente si parla della manifestazione del PDL. A me dispiace che la Biancofiore se n'è andata, perché Se l'è presa male. Però abbiamo, grazie a non leggerlo, che su Twitter ci manda un link, abbiamo un'interessante risposta della Biancofiore durante la manifestazione di ieri, che è addirittura in inglese, rilasciata alla BBC, che secondo me possiamo ascoltare, che è molto divertente. La sentiamo subito. No, sentiamo dopo. No, mi dispiace che se ne sia andata, perché io gli ho fatto delle domande. Cioè, lei a un certo punto voleva parlarmi sopra, io ho parlato sopra lei, però l'intenzione era quella di fare delle domande e di avere risposte. Invece lei se n'è andata stizzita. Ho capito che lo stagista non può parlare, perché sennò si parla in tre tutti in contemporanea e diventa troppo difficile. 800 24 00 24, ricordiamo anche su Facebook, Twitter Si può fare 24. Cos'altro volevo dire? Allora, iniziamo adesso intanto con i titoli del TG3, poi facciamo un riepilogo dei temi di oggi. Ah, ecco cosa volevo dire, vorrei le vostre chiamate anche sui blitz fiscali a Cortina, perché abbiamo sentito, sì a Cortina, buonanotte, stasera non è in blocco una a Capri, abbiamo sentito il sindaco di Santa Margherita Ligure, anche questo è un tema che fa sempre discutere. Io vorrei sapere da voi ascoltatori se vanno bene, servono a qualche cosa, oppure se è solo, come ha detto un po' anche il sindaco, fumo negli occhi. Titoli del TG3. Napolitano riceve i capigruppo PDL Schifani e Brunetta, che hanno illustrato, dice il Colle, le loro idee per stabilizzare il quadro politico. Lungo vertice a Palazzo Grazioli, ancora confronto Falchi e Colombe, la Santanchè annuncia Berlusconi non chiederà i domiciliari, andrà in carcere. Epifani incontra Letta, certe polemiche del PDL hanno superato i limiti, dice il segretario del PD, il governo non può e non deve farsi logorare. Grillo smentisce dal blog qualsiasi tentazione di alleanza con i democratici, in caso di rottura delle larghe intese, per me, dice il PD, uguale al PDL. Vertice Letta, Visco Saccomanni, l'economia migliora, le riprese a portata di mano, ma serve stabilità, in arrivo altri rimborsi IVA per le imprese. In tempi duri come questi, se un'azienda assume, la corsa al lavoro, così all'IKEA di Pisa per 200 posti di lavoro fanno domanda in 28.000. Tensione nel mondo islamico alla vigilia della fine del Ramadan, ambasciate USA chiuse fino a sabato, allarme in Pakistan, manifestazioni in Egitto e Tunisia. Thank you. occhi uno a uno e lo direi guardando negli occhi i miei cosiddetti giudici. Io sono innocente! Mi domando veramente se il mio caro presidente... Nella nostra Costituzione c'è scritto: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita secondo la Costituzione. Non c'è scritto, come dovremmo credere, guardando a quel che è successo, che l'articolo 1 appunto dica: la sovranità appartiene alla magistratura, che la esercita come vuole, senza alcun controllo. Mi addormento e mi sveglio col giornale e chi vedo proprio in prima pagina. Io sono qui. Io resto qui. Io non mollo. Continueremo tutti insieme a combattere questa battaglia di democrazia e di libertà. 25.000 secondo la Biancofiore in via del plebiscito da Berlusconi. Ha detto, sono le cifre ufficiali anche della questura. Noi abbiamo chiamato la questura di Roma e però ci ha smentito di avere mai fatto numeri la questura su questa manifestazione. Erano di meno? Non lo so, dalle immagini televisive è sempre difficile capire, probabilmente erano meno di quelli che dice la Biancofiore, qualche migliaio. C'è anche una dei partecipanti che dice: ci hanno pagato tutto. Ce l'abbiamo, quella la sentiamo magari tra un attimo. Sì, ci hanno pagato tutto, anche i panini, le banane, eccetera. Adesso Gabardini, questo è il tuo, la Biancofiore. La Biancofiore, l'audio della Biancofiore ai microfoni della BBC durante la manifestazione di ieri di Silvio Berlusconi. In inglese. Outside the former Prime Minister's mansion in Rome, huge crowds gathered to rally against his sentencing for tax fraud. The Italian people are in love with Silvio Berlusconi because he's an innocent. He's not a delinquent like the judges say here in Italy. E direi che he's not a delinquent. Direi che insunto are in love. In love, cioè siamo tutti innamorati di Silvio Berlusconi e che è innocente. Non tutti, proprio tutti insomma. Lei ha detto tutti però, the people. Generalizzazioni. 800 24 00 24. Poi lei ci ha chiuso il telefono in faccia, ha detto che qual è stato il motivo per cui è andata via poi alla fine, cos'è perché che... non lasciavi rispondere a non mi ricordo perché sì, lei ha detto che non la lasciavi rispondere. In realtà tu volevi fare un'altra domanda. Fare un'altra domanda. E comunque abbiamo anche l'ultimo tweet di Michela Biancofiore, che in realtà non tweet dal 14 aprile. Sì. E il 14 aprile twittò: ma io insisto, l'Italia si salva con Berlusconi al Quirinale e Renzi presidente del Consiglio. Che paese rock sarebbe? Forse adesso è un po' tardino per Berlusconi al Quirinale. Possiamo dire che ci ha azzeccato. Ha azzeccato, anche perché se fosse stato al Quirinale poi si doveva dare la grazia da solo. Non so esattamente che cosa sarebbe successo. Sentiamo Rosy Bindi a proposito di questa ventilata clemenza nei confronti di Berlusconi. Sì, ma se fa un passo indietro. Qualunque atto di clemenza nei confronti di Berlusconi può essere preso in considerazione nel momento in cui lui fa un passo indietro dalla politica, ma invece lui chiede la grazia, chiede di essere per continuare a far politica, cioè questa è la contraddizione vera. E poi c'è la querella estenuante del questo corteggiamento tra il PD e il Movimento 5 Stelle che va avanti nel weekend. Dichiarazioni del Movimento 5 Stelle: potremmo fare un'alleanza col PD, fare una legge elettorale insieme. Poi oggi Grillo di nuovo, l'ennesima, non so più, la 48esima smentita. Sentiamo Roberto Fico, oggi intervenuto, dice: sì, possiamo fare la legge elettorale con il PD. Adesso il Partito Democratico sta governando, ha l'appoggio nostro su una nuova legge elettorale che non sia presidenzialista, che non sia semipresidenzialista, ma che dia di nuovo forza al Parlamento, che quindi il Parlamento con la governabilità sia il centro legislativo del Paese, così come dice la Costituzione. Tutte chiacchiere, perché il Movimento 5 Stelle non esce dall'angolo, non fa alleanze con nessuno, sta lì a guardare la situazione, la barca che affonda, verrebbe a dire. No, ma non c'è barca che affonda, c'è un governo, però insomma, si va avanti così, si veleggia. Fico, che da una parte propone al PD di fare la legge elettorale, dall'altra poi dice stanno facendo un gioco erotico PD e PDL, il bondage. Il Partito Democratico e il PDL, quindi PD e PDL, stanno facendo un gioco erotico molto forte che si chiama bondage. Loro sono estremisti e quindi che cosa fanno? Con un cappio al collo l'uno, un cappio al collo l'altro, fanno questa pratica erotica che si chiama bondage e spingono sempre di più. Si stanno per strozzare, poi lasciano e si sta per strozzare l'altro, poi lascia fino a quando moriranno tutti e due. Il mio cane. Beh, vuoi comunque commentare questa cosa qua di Fico? Beh, direi che comunque la pratica erotica la conosce molto molto bene. Sì, però ha fatto un po'. Si è un po' e la porta un po' agli estremi. Perché diciamo che di solito si cerca di non ammazzare il partner, anche perché sennò poi dopo ci si diverte pochissimo. Ma era una metafora politica, dai. O una proposta. Non lo so. È il momento del nostro punto di vista strambo per cercare di uscire un po' dai soliti pantani della politica. Ritroviamo il nostro amico Stefano Cucca, pedalatore, ragazzo sardo di quanti anni? Stefano, buonasera intanto. Ciao a tutti. Ciao. Che età? Sento un po' di eco. Noi invece ti sentiamo bene. Non lo so. Va bene. Quanti anni hai, Stefano? Io ho 34 anni. Stai pedalando da dove a dove e perché? Ricordiamolo agli ascoltatori. Allora, sono partito l'8 giugno dalla Sardegna, diciamo per arrivare in Sardegna fra circa un anno. Mm-hmm. Ad oggi mi trovo a Lussemburgo. Sì. Sono stato oggi ospite alla Bay, dove appunto abbiamo trattato un po' il tema degli investimenti, soprattutto sul. Sì, scusa Stefano, che cos'è la BEI? La sostenibilità. Sì, cos'è la BEI? La BEI è appunto la Banca Europea per gli Investimenti, che investe ogni anno circa 70 miliardi di euro in progetti in tutta Europa. Quindi sei andato in una sede istituzionale questa volta? Sì. Diciamo che secondo me, appunto, come ho detto fin dall'inizio, nel mio progetto mi piacerà parlare da chi vive senza luce o senza acqua, perché magari ritiene che questa sia la soluzione migliore per poter condurre una vita sostenibile, fino magari all'amministratore delegato di una multinazionale che necessariamente deve fare i conti con della responsabilità sociale di un'azienda, passando anche magari per una sede istituzionale come quella di Lussemburgo, dove appunto si investono, ripeto, 70 miliardi di euro in progetti in tutta Europa, e molti di questi sinceramente ho avuto la fortuna di capire che sono anche usati per investimenti nel settore del green energy, ad esempio. Quindi diciamo, questo incontro ti ha reso un po' ottimista sul ruolo dell'Europa in questo caso, dove si finanziano progetti anche positivi da questo punto di vista? Ma sì, diciamo che appunto questa è. Pensavo di trattare il tema dell'Europa sinceramente a Bruxelles, dove arriverò fra due giorni, sì. Avrò alcuni appuntamenti. Quello invece di Lussemburgo è stato appunto un po' venuto quasi casuale come appuntamento, però sono stato molto contento appunto perché, sai, dai giornali sembra quasi appunto che i fondi di investimento siano dei cattivi speculatori che rovinano il mondo. Io ho passato tutto il giorno oggi in banca a chiacchierare con ragazzi trentenni che arrivano a tutta Europa con tante sensibilità e tanta voglia di fare e che credono comunque nei progetti che sviluppano. Ma che cos'erano, con team di progetto. Stefano, che cos'erano? Dipendenti, funzionari, manager della BEI, della banca? Sì. Un punto di vista una volta tanto ottimista. Non avevo questa. Cioè non pensavo ci fossero queste sensibilità comunque anche magari alla fase di attivazione di progetti osservare alcune procedure che sinceramente devono riguardare la qualità dei progetti. Ma c'è la rastrelliera? C'è la rastrelliera per la bicicletta sotto la sede della banca? Sì. Questo già è una buona notizia. Sì, no, ma Lussemburgo è, diciamo, tutto il nord Europa relativamente alla mobilità urbana sono appunto molto avanti. Purtroppo in Italia non ho trovato le stesse sensibilità, però culture diverse. Ma la fai tutta veramente in bici o in realtà fai dei pezzi in treno? E non ho mai capito come funziona quando uno dice faccio il giro del mondo in bici. Ma guarda, diciamo che io più o meno ho contabilizzato 30.000 km in bicicletta. Poi ti faccio un esempio banalissimo, ad esempio, negli Appennini gli ultimi 10 km praticamente mi hanno dato un passaggio, perché la mia bicicletta non ha una geometria tale per fare delle percentuali come quelle che stavo facendo e mi si impennava. Quindi era una salita talmente ripida che sei dovuto scendere. Sì, praticamente sono dovuto scendere dalla bici e mi hanno accompagnato per un tratto. Quindi quando mi accadono queste situazioni, necessariamente devo utilizzare. Ma chi ti ha salvato, Stefano, in quel momento lì? Che passava uno di lì e ti ha dato un passaggio? Sì. Comunque prendiamo per buona, diciamo, 30.000 km mi sembra un'ottima risposta. Diciamo che la stai facendo quasi tutta in bici, ecco. Io sì, penso che non li farò mai in tutta la mia vita 30.000 km. A me piace comunque, per me girare in bicicletta è un gran lusso. Girare in bicicletta, vi faccio un esempio banale. Ieri sono partito da Friburgo, avanti ieri, sono arrivato oggi a Lussemburgo praticamente risalendo tutto il Reno. Ho avuto la fortuna di chiacchierare per circa 30 km con una docente della facoltà di scienze politiche di Friburgo. Parlavamo dell'importanza. Ma e cosa c'era? Anche lei in bicicletta? Anche lei in bicicletta sul Reno? Sì. Ah, però si fanno incontri straordinari. Cioè, c'è un sacco di gente che va in giro lungo il Reno in bicicletta, non come in Italia lungo il Po dove non succede nulla. No. Ho fatto circa 100 km lungo il Reno. E che cosa vi siete detti? Una strada larga a 3 metri. Con questa docente, che cosa vi siete detti? Vi siete scambiati il numero di telefono? No, di targa. È stato molto bello l'incontro con questa signora, che potrebbe essere mia mamma, perché ha circa 60 anni, ma con lei abbiamo necessariamente trattato il tema dell'Italia. Lei conosce molto bene l'Italia, perché giustamente mi ha detto che l'importanza della storia è molto importante. Lei conosce la storia dell'Italia e della Sardegna, necessariamente, visti i titoli di questi giorni, abbiamo parlato di ciò di cui i giornali stanno parlando. Chi della sentenza della Cassazione, della manifestazione, cosa ti hanno detto? E lei stessa mi diceva che, it's a shame, cioè è un peccato, è un peccato che un popolo straordinario come... Shame è una vergogna, direi, o sbaglio? Come? Shame è più vergogna che peccato, o sbaglio? Sì, scusami. Ho la terza media, quindi potrei sbagliare, però... Ecco, allora non ti permettere di correggere... No, non volevo correggere, volevo capire. Sì, perché mi diceva, cioè... Come fa un popolo straordinario come il vostro ad aver perso 30 anni, gli ultimi 30 anni, dove comunque altre aree in Europa hanno utilizzato questo tempo per sviluppare e migliorare, e voi che avete scritto la storia... Non è che noi siamo rimasti... Non è che siamo rimasti... Nel Reno, ma ha detto romani, 30? Perché se ha detto 30, diciamo, ci ha messo dentro anche un pezzo di Andreotti, non solo di Berlusconi, direi. Sì, ma sicuramente. Ma il problema, la cosa brutta, non è Berlusconi sì, Berlusconi no. In Italia ci vuole proprio un cambio forte, ma deve avvenire a tutti i cittadini, no? Il problema non è Berlusconi, il problema, io l'ho chiamato ieri in un post che ho scritto su Friburgo, il risveglio delle coscienze. Va bene, Stefano, io la prossima volta che ci sentiamo ci racconti meglio anche qualcuna di queste chicche, insomma, di stili di vita in armonia con la natura che tu vai incontrando. Adesso hai fatto solo qualche riferimento, abbiamo parlato anche d'altro. Grazie intanto per essere stato con noi. Grazie mille. Prossima tappa Bruxelles? Prossima tappa Bruxelles, abbiamo capito bene? Sì, Bruxelles, poi Amsterdam e poi Rotterdam. Quanto ci vuole Lussemburgo, Bruxelles? Quanto ci metti? Poco, due giorni. La classica biciclettata di due giorni. Chi è che non la fa? In macchina ad averla fatta in pochissimo tempo. Grazie Stefano Cucca, buona serata. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, buona serata. Viva l'Italia. Grazie, viva l'Italia. 800 24 00 24. Adesso facciamo la borsa, prima la good news e poi torniamo tra poco con gli ascoltatori. And now the good news. I mini market del riuso sono una catena di negozi in cui gli abiti vecchi riprendono vita. Rattoppati, tagliuzzati, personalizzati con disegni o borchie, i vestiti fuori moda diventano irriconoscibili. L'idea è venuta a due ragazzi di Rimini che oggi sono titolari di più di 10 negozi in Italia. In tempo di crisi non si butta via niente. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, 800 24 00 24, abbiamo Stefano che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buonasera. Buonasera. Se può abbassare la radio, altrimenti sentiamo il ritorno, grazie. È già perfetto. Sente lo stesso l'eco? No, vada. Ah, perfetto, perché è spenta. Allora, io mi collego un attimino, mi dispiace che non ci sia più la signora Biancofiore, perché appunto, probabilmente lei è stata influenzata da Marzullo, che lui ha quella massima che dice si faccia delle domande, si dia delle risposte, forse ha avuto un attimino, diciamo, questo modo di pensare. Poi mi collegavo al discorso di Berlusconi, dal discorso che ha fatto diciamo l'altro giorno, no? Sì. Praticamente non ha mai licenziato nessuno dei suoi dipendenti, però quando è arrivato la seconda volta al governo, se non sbaglio, ha mandato a casa Luttazzi, chiamato, guardi, non so che dirle. Vabbè, ma ho capito, però mi sembra che a scrivere come licenziamenti quelli dell'editto bulgaro mi sembra un po' fuori luogo, nel senso che non fa parte dei licenziamenti, fa parte di un'altra operazione che uno può condividere o non condividere. No, no, certo, però era per dire, insomma, che lui ha fatto proprio piazza pulita delle persone che gli danno un po' fastidio. Avrebbe fatto molto di più, solo che probabilmente non ce l'ha fatta. Voglio dire, e poi diciamo i cosiddetti falchi o colombe, chiamiamoli come vogliamo, lo tengono su questo personaggio perché è come, sa che qualche volta trovano purtroppo le nonne morte in casa da qualche anno perché i figli o i nipoti tiravano la pensione, no? Praticamente loro stanno facendo uguale, nel senso che cercano di tenere in vita Berlusconi politicamente, perché se no loro sarebbero, diciamo, alla fame, cioè nel senso sparirebbero. L'immagine è quella di un anziano al quale tutti stanno intorno per rubare la pensione, questo che sta dicendo? Sì, praticamente loro lo tengono in vita perché se loro dovrebbero, diciamo, perché il mondo ci guarda e dicono ma o lì in Italia fra poco avranno delle galere talmente grandi perché in galera lui e tutti quelli che lo votano, oppure qualcosa deve succedere, perché voglio dire, sti qua che continuano a far finta di niente, i suoi dipendenti, i direttori di giornale, cioè, ma come si fa? Va bene, Stefano Gabardini, io ti ho visto particolarmente infuriato con questo ascoltatore qua, però abbiamo un ospite, dobbiamo salutarlo perché alla camera stanno lavorando e quindi... Insomma, io mi zittisco. Ecco, no, ma non ti devi zittire, solo che abbiamo Walter Rizzetto, deputato del Movimento 5 Stelle, che ci ha raggiunto, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Ci avete il voto di che cosa? Abbiamo il voto per quanto riguarda la svuota carceri, quindi fra poco si va. Ah, sì. E come votate voi del 5 Stelle? Ma noi chiaramente voteremo un no per la svuota carceri, però ripeto, la cosa si sta ancora un po' delineando, nel senso che come al solito ci affidiamo alla Commissione Giustizia che ha studiato a fondo. Perché voterete no sullo svuota carceri? Voteremo no, insomma, perché è un decreto omnibus come tutti quelli che ci stanno propinando in questo momento, e poi perché tutto sommato è per l'ennesima volta non siamo riusciti a proporre e a farci accettare, anzi li abbiamo proposti parecchi nostri emendamenti, qualcuno è passato, qualcun altro non è passato, ma la maggior parte come al solito non sono passati. Sì, ma nel merito, come mettiamo oggi, che qualcuno ci stia ascoltando, speriamo, e che dica perché lo svuota carceri no, perché non hanno approvato i miei emendamenti, ma di cosa c'è nello svuota carceri che non condividete? Ma guardi, questa è una domanda che lei dovrebbe rivolgere esattamente alla Commissione Giustizia, nel senso che, le ripeto, loro hanno studiato a fondo il caso dello svuota carceri. Noi in questi giorni, se vuole che le dica qualcosa di politico, in questi giorni io da Commissione Lavoro stiamo guardando giorno e notte il decreto 76 Giovannini, che domani approderà in aula. Quindi voglio dire questo. Ovvero sia? Ma il decreto Giovannini in teoria, perché è proprio una teoria, riguarda lo sviluppo occupazionale dei giovani e anche il rinvio dell'IVA. Noi anche oggi abbiamo fatto una seduta di commissione dove per protesta ce ne siamo andati, il Movimento 5 Stelle ha bloccato, anzi ce ne siamo andati dallo svolgersi della commissione, perché pur tranquillizzati dal sottosegretario questa mattina rispetto ai nostri emendamenti, alle nostre proposte, ci hanno detto vi ascoltiamo, e invece per l'ennesima volta non ci hanno ascoltato e hanno iniziato a bocciare tutti i nostri emendamenti, quindi tutta una serie di proposte che noi abbiamo fatto per cercare di migliorare in parte il decreto Giovannini, Invece questo non è accaduto, quindi per protesta se ne siamo andati. Domani faremo una conferenza stampa su questo Parlamento che per l'ennesima volta viene esautorato dai suoi poteri, ma oltre che aver esautorato noi dal potere di fare le leggi o di fare delle proposte che a noi sembravano migliori, stanno esautorando la stessa maggioranza, in quanto, strano ma vero, la stessa maggioranza non ha proposto emendamenti sul decreto lavoro. Stiamo immolando il decreto lavoro sull'altare delle ferie. Cioè sembra che però, osservando il lavoro del Movimento 5 Stelle alla Camera, sembra che voi non riusciate molto ad incidere, che siate un po' in un angolo, fate delle proteste, uscite dall'aula spesso e volentieri, però poi non riuscite mai a incidere. Cioè c'è qualcosa che sbagliate voi oppure è stato inutile candidarsi? No, non è stato né inutile candidarsi né, immagino, tutti possono commettere degli errori sicuramente, non è stato inutile candidarsi, ma non è neanche inutile il lavoro che stiamo facendo. Va da sé che noi non siamo maggioranza, noi siamo opposizione. È anche vero che il primo ministro Letta, quando venne alle Camere per enunciare alla Camera dei Deputati il suo programma, disse che non farà passare nessun decreto, non avrebbe fatto passare nessun decreto con la fiducia. Bene, molto probabilmente arriveremo alla fiducia su altri due decreti, il decreto del fare che dal Senato sta ritornando e il decreto Giovannini, e quindi per l'ennesima volta è una riproposizione del governo Monti, che ha fatto passare, se non ricordo male, più di 40 decreti con la fiducia. E quindi che cosa ci stiamo a fare noi qui? Noi facciamo protesta, noi cerchiamo di portare fuori le nostre idee e dobbiamo denunziare questi fatti che accadono all'interno della Camera dei Deputati, per cui non si può cambiare nulla. E quindi un decreto che è stato calato dall'alto, dall'esecutivo, viene preso paro, ma questa cosa però è sempre successa, cioè i decreti, la fiducia, insomma, non è la prima volta, non sarà l'ultima. Assolutamente sì. Certo, questo bypassa un po' la discussione parlamentare, insomma, questo è inevitabile. Bypassa la discussione parlamentare, però mi permetta, sì. In questo caso è successa una cosa più grave, nel senso che quando la maggioranza non propone degli emendamenti che effettivamente tutti i loro avrebbero votato, quindi delle migliorie eventuali a questo decreto, significa che vogliamo chiudere la Camera dei Deputati per due o tre settimane per le ferie, giuste anche sotto un certo punto di vista, sì, ma che non tentiamo neanche di migliorare un decreto che ci sta arrivando da votare. C'è da dire anche una cosa sui decreti, che poi spesso a volte finisce che magari la Corte Costituzionale li boccia perché non c'era l'urgenza e quindi il governo va avanti a colpi di decreto, poi su questo forse avete ragione voi, però guardi, non lo so. Non so se è questo governo... il caso di cui stiamo parlando, però Rizzetto, noi l'abbiamo chiamata anche per questo, perché nel weekend a botta, diciamo a ridosso della sentenza, della Cassazione, eccetera, abbiamo visto, diciamo, di nuovo delle aperture, no, da parte dei suoi colleghi del Movimento 5 Stelle nei confronti del PD, alle prese adesso con la gestione del caso PDL. Guardi, no? Scusi, se sente confusione, sì. Io sto entrando perché sto andando a votare, quindi siete... Sì, sì, no, non sentiamo, sì, forse il campanellino. Queste aperture. Poi però oggi Grillo è intervenuto di nuovo dicendo no, non se ne parla. Tra l'altro avevamo invece letto che anche Grillo si stava interrogando se percorrere una strada diversa e quindi tentare un'alleanza con il PD. Assolutamente d'accordo in questo caso con Grillo, nel senso che qualora noi dovessimo andare a proporre un qualcosa al Partito Democratico, noi andremo a salvare il Partito Democratico che sta andando a schiantarsi a 200 all'ora contro un muro. Quindi però sono perfettamente d'accordo, sì, nel non aprire. Ma quindi l'obiettivo è far schiantare il PD? L'obiettivo è far schiantare tutta questa maggioranza, nel senso che non esiste più a tutti gli effetti una maggioranza. Cioè, il PD a questo punto è diventato più berlusconiano dell'onorevole Santanchè, esiste, nel senso che questa maggioranza non ha più un disegno preciso. Quando, e ritorno a quanto detto prima, si fanno passare i decreti, che sono lo strumento massimo del Parlamento per potersi esprimere, vuol dire che ormai su un disegno ben fatto, ben collaudato, ben impacchettato, e noi non possiamo farci più nulla. E quindi noi chiediamo a gran forza se si può nominare al presidente Napolitano di imporre alle Camere il cambio della legge elettorale e quindi ritornare al voto. Però in questo frangente andare col Partito Democratico... Cioè voi, non ho capito, chiedete a Napolitano che chieda al Parlamento di intervenire prioritariamente sulla legge elettorale? Napolitano, il presidente Napolitano si è espresso... L'ha detto molte volte, a favore, sì. A favore di questa cosa e quindi il presidente Napolitano stesso ha dichiarato: cambiamo questa legge elettorale. È uno dei nostri dei motivi per cui siamo qui, il cambio della legge elettorale. Ricordo che un mese fa, mi pare, un mese e mezzo fa, lo stesso deputato Giacchetti ha proposto una mozione per il cambio della legge elettorale che non è stata votata neanche da coloro che avevano firmato la stessa mozione, quindi dai suoi compagni di partito. Però Giacchetti riproporrà sì. la procedura d'urgenza, come sapete, a settembre, sì. vediamo se questa volta si farà qualcosa. Però la legge elettorale sappiamo che è legata, almeno i partiti la legano poi alle sorti della legislatura, dicono approvarla adesso vuol dire dare per scontato che la legislatura si accorcia. Lei che sta lì, che sensazioni ha? La legislatura si accorcia oppure questa crisi relativa alla situazione di Berlusconi e all'alleanza con il PD, c'è un po' di fibrillazione, va andrà avanti tranquillamente? La legislatura secondo me si è accorcia, nel senso che è proprio evidente nei fatti e nelle intenzioni che le due parti non stanno andando molto d'accordo. Dopodiché se la legislatura cadrà, vista l'accelerazione che si è subita rispetto alla sentenza Berlusconi, sentenza che io amo sempre ripetere, deve essere effettivamente portata avanti, cioè è inutile che adesso vadano a cercare grazie a destra o a manca. C'è una sentenza in terzo grado, quindi una sentenza definitiva, e va fatta rispettare questa sentenza. Chiaramente però questa domanda, voglio dire, io posso darle soltanto una mia interpretazione. La mia interpretazione è che questa sentenza andrà a minare il cammino di questa maggioranza. Non fosse altro che noi saremo pronti, e tutte le opposizioni immagino saranno pronte a ricordare al Partito Democratico, ad esempio, che stanno governando con una persona che è stata condannata. Questo, dire, ma se come dice lei la legislatura si accorcia e l'alleanza è sempre più in crisi, voi starete lì a guardare, diciamo, e quindi se dovesse cadere il governo, che ne so, in autunno non farete nulla per proseguire la legislatura oppure sì? Per quanto mi riguarda io non farò nulla per aprire né a PDL né a PD. Ripeto, per quanto mi riguarda si vada a cambiare la legge elettorale e dopo si ritorni al voto. Questo è il mio modestissimo modo di vedere le cose. Io penso che agli italiani serva un'altra legge elettorale, quindi facciamolo quanto prima. Si sono dichiarati molto spesso sia PD, sia PDL, sia, come ricordava giustamente lei ed io prima, il presidente Napolitano, propedeutici al cambio di questa legge. Per cortesia cambiamola quanto prima. Insomma, questo è lo start-up, è l'inizio di un nuovo cammino, questo è poco ma sicuro, però allo stato attuale dei fatti sarebbe controproducente per il Movimento 5 Stelle andare ad aprire a destra o a manca. Va bene, grazie Walter Rizzetto, buona serata, buon lavoro, non sentiamo più grazie. Rumori dietro di lei, ma insomma scommettiamo che invece sono lì con il campanellino alla camera pronti per il prossimo voto. 800 24 00 24. Comunque affermazioni forti, nel senso che dire che il PD è più berlusconiano della Santanchè, voglio dire. Eh sì, è abbastanza insomma. Forte, ma questa è un po' la linea adesso del Movimento 5 Stelle, che però appunto da una parte è tentato di aprire un dialogo col Partito Democratico, visto che adesso il PD è un po' in crisi sulla vicenda Berlusconi, però poi di fatto questo dialogo non si aprirà mai, ecco. Questa... No, e l'interessante è anche questa cosa che stanno votando lo svuota carcere, devo dire, nel giorno in cui Berlusconi dice andrò in carcere, non voglio i domiciliari, e in Parlamento gli svuotano le carceri, di modo che trova un bel carcere completamente vuoto, una singola diciamo, è la preparazione di una singola questa. Può darsi, non è male come lettura. 800 24 00 24, abbiamo Erio che ci chiama dalla provincia di Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, grazie. Prego. Salve. Senta, io vivo all'estero da circa 30 anni, ho 50 anni, io sono un commerciante. Volevo dirle la mia opinione sul fatto del Berlusconi. Lui fa impresa, quindi ovvio che in Italia e all'estero lui troverà sempre il consenso di tutti quelli che fanno impresa. Io penso che oggi fare impresa in Italia sia impossibile e lo sarà ancora sempre di più. Personalmente... Ma lei di cosa, lei di cosa si occupa, scusi, Erio? Pronto? Lei di che cosa si occupa, Erio? Ah, io faccio centri commerciali. Lei, cioè costruisce centri commerciali? Sì, l'invento, di progetto, di avvio per altre persone. Ma in Italia ne ha fatti, perché in Italia ce ne sono parecchi di centri commerciali, sì, non è che in manca. Italia ne ho fatti parecchi, sì. Quindi si può fare impresa anche in Italia? Penso che in Italia sia veramente difficile fare. Difficile o impossibile? Perché impossibile è la posizione di Marchionne, direi. Direi che è quasi impossibile. Ah beh, buono, quasi. Di conseguenza, tutti quelli che fanno impresa, è chiaro che identificano in Berlusconi una persona che possa, con la quale si possa dialogare. Oggi quello che comunque influisce sempre l'impresa è la politica. Quindi una politica che va in un senso aiuta l'impresa. Oggi vedete il titolo della società di Berlusconi che sale in borsa. E quindi la politica sicuramente muove tutti quelli che fanno impresa. Oggi la politica italiana, a mio avviso, modestissimo avviso, sta andando contro l'impresa. Di conseguenza, andando contro l'impresa, ci sarà un impoverimento di tutto quello che è il sistema italiano. Io ricordo i miei genitori, quante ore lavoravano al giorno e l'impegno che loro hanno messo per costruire, per contribuire a costruire quest'Italia. E quindi? La politica era comunque a favore dell'impresa. Oggi l'impresa viene quasi un pochettino demonizzata e questo credo che sia un approccio molto sbagliato. Va bene, Piero, lei però è la dimostrazione che invece è vero anche il contrario, perché perché poi si può fare impresa anche in Italia, e lei stesso l'ha fatto, insomma. Adesso poi si possono fare tutti i discorsi che si sono fatti mille volte, adesso non mi sembrano di stringente attualità. Grazie comunque, Piero. Invece, poi ci chiamiamo si può fare, quindi chiamare per dire non si può fare non vale, è non sbagliata vale. Trasmissione. Piero da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Io ho chiamato sono un tassista di Roma, per dirle che io sabato lavoravo durante la manifestazione e ho visto che praticamente domenica. In questo modo ci saranno state. Piero, domenica la manifestazione. Piero. Il plebiscito è talmente. Ma stasera non mi sente nessuno, non so perché. Piero? Sì. Ecco, è domenica, dice la manifestazione di domenica. Domenica, scusa. Sabato, domenica. Siccome. Si lavora il sabato e domenica, ci sono i tuoi turni che spostati, c'è cioè chi lavora il sabato. Vabbè, quindi domenica, quanta gente domenica, c'era in piazza? Domenica, va bene, mi scusi, esatto. Niente. Io ho telefonato essenzialmente per dirle che finalmente ogni tanto si sente un giornalista che incalza. Io ho avuto come un sospiro liberatorio, guardi, perché non se ne può veramente più. Mi voglio associare alla signora che ha chiamato prima, che al di là adesso del... Ma di cosa parla? Della Biancofiore? Sì, se parlo della Biancofiore, esatto. Perché non se ne può più di gente che ci accarezza come se fossimo dei bambini deficienti o come se stessimo lì così imbambolati ad ascoltare le parole loro. Allora, ma questo vale un po' in generale per tutti. Le volevo fare i complimenti perché stasera lei mi ha liberato mentre guidavo, ma veramente liberato, perché veramente di giornalisti che incalzano in Italia ce ne sono veramente pochi. Chiuso qua, guardi, è la prima volta che chiamo. Va bene, Piero. È la prima volta che chiamo. Ma richiami, ci richiami. Noi siamo qua tutte le sere fino alle 20:30. Ci ha detto quanti erano in piazza, però. 2000, se no 1500-2000 persone. Perché vi sento malissimo, perché sto in mezzo al traffico. Va bene. Persone, ci fermiamo qua perché se no la facciamo troppo lunga. Grazie. 2000 secondo Piero, 25.000 secondo la Biancofiore, nessuno secondo la questura, perché li abbiamo chiamati e hanno smentito di aver dato cifre ufficiali sulla manifestazione di ieri in via del plebiscito. Andiamo a Loretta che ci chiama da Roma. Salve. Sempre da Roma, buonasera. Buonasera, mi unisco al coro, al dell'indignazione, perché non se ne può veramente più. E i media stanno dando tutti una grossa mano al solito a Berlusconi, che lo fanno vedere dovunque, anche quando è come il prezzemolo nelle minestre. Comunque, sono stanca di sentire Cicchitto che insulta Marino perché gli ha fatto notare che ha montato un palco senza permessi. Gli ha dato del cretino a Marino. Gli ha detto cretino. Sì, e che in effetti non c'entrava molto, perché era una questione semmai di permessi, autorizzazioni. Poi, ma non solo, proprio l'improntitudine, la faccia d'acqua. Sta andando avanti comunque la polemica sul palco, perché gli organizzatori hanno detto: abbiamo inviato 3 mail al comune. Sopra un negozio gli hanno fatto 800 euro di multa. Aspetti un attimo, Loretta, aspetti un attimo, questa notizia qua dove l'hai presa, Gabardini? Da Repubblica dice che gli organizzatori dicono che abbiamo inviato 3 mail al al comune e un fax alla questura. Quindi a posto così. Cosa che il realtà... comune però avrebbe detto che le... no, ma non c'erano tutte le autorizzazioni. Ma certo, ma non basta mandare una mail al comune. Non è che posso mandare una mail al comune, ma dicendo tu che ne sai come si fa l'autorizzazione. Ma perché le manifestazioni le abbiamo fatte tu tutti. Fatte, ma tu certo fatte, che bisogna occupare. Certo, e autorizzate. Come si fa ad avere un palco? Adesso tutto il regolamento rischio solamente di fare delle figuracce terribili. Ma non, lo non sai, è che basta, non è che basta mandare una mail, hai bisogno dell'autorizzazione, che è la mail che arriva nell'altro senso, non che tu la mandi, devi aspettare che te ne arrivi una dicendo avete l'autorizzazione, potete occupare il suolo pubblico e soprattutto potete pagare, perché poi si paga. Loretta? Ma io dico che sono analfabeti costituzionali e culturali, e Berlusconi che mi chiede che la magistratura davanti con un compitino, si sceglie con un compitino quando il concorso in magistratura è uno dei più duri che ci sia, anzi se non il più duro che ci sia in Italia, perché devi dimostrare di possedere le competenze, vorrei proprio vedere se fosse la magistratura elettiva come ci ritroveremmo con l'indipendenza della magistratura stessa. Va bene, grazie Loretta, la sentiamo male, andiamo a Francesco che ci chiama da Messina. Buonasera Francesco. Buonasera a voi. Eccoci qua, prego. Intervenivo per quanto riguarda la questione dell'evasione fiscale di Santa Margherita Ligure. Sì? La presunta evasione, ecco. Bravo, certo. Volevo dire che praticamente secondo me il pensiero è da spostare anche sul fatto che questi controlli vengono fatti per creare una specie di database che da utilizzare poi all'Agenzia delle Entrate per fare dei raffronti sui negozianti, sugli esercenti, ma sui clienti. Perché se per esempio abbiamo un evasore totale che mi va a pernottare nell'hotel 5 Stelle Superior e spendere 100 euro a notte. Però questo tipo di controlli mi sembra che fossero praticamente tutti sugli esercizi, non su, diciamo, chi arriva con la Ferrari e in realtà dichiara di essere nullatenente. Almeno non è stato mai specificato, effettivamente. Dalle notizie stampa che ho letto io non è stato specificato il tipo di controllo. No, sono almeno tutti gli elenchi danno il numero di esercizi, sì. Non diciamo di persone. Genere, poi è ovvio però... che in un caso così controlli. È diciamo una cosa incrociata. Se io controllo l'esercizio, sì, posso controllare anche chi è lì. Sì, ma la questione è sull'utilità di farlo sabato sera o meno questo tipo di controlli. Su questo lei che ne pensa, Francesco? È stato proprio questo, l'utilità è trovare più persone possibile e creare un dato incrociare. È favorevole, cioè, a questo tipo di controlli. Secondo lei vanno fatti perché servono? Hanno fatto un controllo all'Agenzia delle Entrate perché non ho, nella dichiarazione dei redditi non so di quale anno avevo sbagliato a mettere una detrazione, sono un dipendente, sei figuri. Quindi dice, se controllano me che sono un dipendente, devono controllare tutti. Va bene, grazie Francesco, buona serata. Niente, a presto. Michele ci chiama da Massa Carrara, buonasera. Buonasera. Prego. Innanzitutto volevo ringraziare Radio 24 perché ho trovato lavoro grazie a voi. In che modo Michele? Faccio l'agente di commercio, grazie allo spot venditori.it mi sono iscritto e... Giuro che non l'abbiamo pagato, Michele, hai fatto tutto da solo. Va bene, Michele, congratulazioni. Ma non hai chiamato solo per questo, però, spero. No, naturalmente. Mi è piaciuto molto l'incalzamento sulla Biancofiore e volevo chiedere a voi, giornalisti, se vi piace più la sfida di intervistare quelli del PDL che ripetono in maniera ossessiva sempre le solite risposte e quindi non vi rispondono in realtà, oppure vi piace più quelli del PD con i quali forse c'è un po' più di colloquio? Intanto qua di giornalista ce n'è solo uno, che è Alessio Maurizi. Io sono uno stagista dell'opinione e quindi risponde Alessio. Sì, no, è sicuramente più divertente interloquire con la Biancofiore, che è quantomeno frizzante e spumeggiante, poi ci si parla sopra. Con quelli del PD a volte c'è meno gusto perché sono un po' più mosci, la dico proprio così come mi viene, insomma. Adesso dobbiamo fare una pausa, non so se Michele vuole stare con noi e dire qualcosa dopo la pausa, poi sentiremo i titoli dei telegiornali di mezzasera. 800 24 0024, tra un attimo Good News. And now, the good news! A Roma, i detenuti si prendono cura della città. Per quasi un anno, i detenuti di Re Bibbia si sono occupati delle aree dei fori imperiali, del Campidoglio e di altri gioielli della capitale, svolgendo lavori di manutenzione e giardinaggio per 4 ore al giorno. Si tratta di un lavoro socialmente utile che rende Roma ancora più bella e più capoccia. può fare. L'attualità, anche d'estate. E allora, prima di riprendere con i vostri interventi all'800-24-0024, subito i titoli del TG1. Letta, ci sono segni di ripresa, serve stabilità, non possiamo permetterci crisi politiche, è urgente la riforma della legge elettorale. Schifani e Brunetta da Napolitano, il PDL consolidare il quadro politico, poi un vertice con Berlusconi a Palazzo Grazioli. Epifani dal Premier, governo non si faccia logorare da polemiche, giovedì la direzione Grillo, mai alleanze col PD, sono come il PDL. Case di riposo per anziani, controlli dei NAS in tutta Italia su centinaia di strutture, risultati confortanti, una sola è stata chiusa. All'Isola del Giglio, seconda estate con il relitto Concordia, resterà lì fino ad aprile ed è diventata un'attrazione per i turisti. Londra, uno chef e due esperti assaggiano in TV il primo hamburger con staminali sviluppate in provetta. Il piatto non convince. Atmosfere e melodia che rievocano gli anni 60 nel brano inedito di Claudio Baglioni in Un'altra vita. La canzone farà parte dell'album Con voi e da ottobre il cantautore riparte con un nuovo tour. Non convince l'hamburger, non convince. Ma tu hai capito di cosa si tratta, Gabardini, questo hamburger artificiale? Incredibile questa notizia di oggi, no? Assolutamente no, era preparato questo separghetto, giusto? Perché adesso tu hai la risposta. No, ovviamente no, come no? Io non era preparato, infatti non lo sa nessuno. Ho visto il classico gesto che era quella di no. Che la so, che sono preparato. No, invece volevo capire questa notizia che oggi è da tutte le parti, è abbastanza incredibile, però che dire. Siamo impreparati sull'hamburger artificiale. Giuseppe dalla provincia di Messina, buonasera. Sì, pronto. Lei ne sa qualcosa dell'hamburger artificiale? No, niente, io mangio hamburger naturali. Oppure se uno vede e non mangia l'hamburger. Della manifestazione sì. Di ieri a Roma, io sono della provincia di Messina, sì. Io ero presente in via del plebiscito. Oh, benissimo, un testimone partecipante. Io sono un testimone oculare, io ero presente. Lei parla come albano, sembra albano, da come parla. Sembra albano, io sabato sera, per l'amore che ho verso Silvio e verso le ingiustizie che subisce da 20 anni, sì, da una magistratura politicizzata al massimo, che non è giustizia. Voi dite 3 gradi di giudizio, ma sono 3 gradi di giudizio falsi. Perché sono falsi, Giuseppe? Da vite milioni di persone. Io mi faccio parlare un attimino, vi spiego tutto. Io ero presente, le persone andavano dall'angolo di Piazza Venezia al largo di Piazza del Gesù, dietro il palco. Aspetti, questa che io me lo segno. Piazza Venezia. Delle persone. Come? No, me lo segno. Piazza Venezia, Piazza del Gesù. Sì, l'angolo dove c'è il largo Piazza del Gesù. Ecco, le persone dietro il palco andavano fin là. E da questa parte andavano fino all'angolo di Piazza Venezia. Però la via non è molto larga. La via. Non faceva più, perché a Piazza Venezia la strada era libero transito, perché oltre non potevano andare le persone. E lì eravamo ammassati a 40 gradi. Questa è la consistenza numerica, ma poi ci sono le immagini in televisione. Ma, le abbiamo viste? Ma quanti erano quindi? Quanti eravate, Giuseppe? Non riesco a capire quante persone possono entrare in via del plebiscito fino a largo Piazza Gesù. 10.000, 9.000, 8.000, 15.000, ma moltissime, questa è la realtà, questi sono i numeri. È importante dire che sono 8.000, che questa è la realtà, che se sono tutti 8.000 che erano lì, ok? 8.000. Lei conosce la strada, lei conosce il posto. Ecco, ha presente quel pezzo di strada. Quel pezzo Ma poi l'abbiamo visto tutti in televisione. Ma infatti, secondo me, su 8.000 ci possiamo anche attestare. Che fossero 8.000. Beh, adesso non è che più IVA, 8.000, più IVA, 8.8. Ah no, l'IVA sta al 21. Dottore, mi lasci dire una cosa. Sì. Tutto questo organizzato in una notte. Io ero libero dal lavoro, il mio giorno libero. Ho preso la macchina dalla provincia di Messina. E sono partito. Ma da solo, Giuseppe, o con qualcuno? Come? Da solo o con qualcuno lei è andato? Con mia figlia, che è più innamorata di me di Berlusconi. Vabbè, quindi, ma, e poi insomma, siete arrivati lì, 8.000 persone, poi ha parlato poco, abbiamo 20 minuti. Abbiamo sentito quello che volevamo sentire, cioè io non mollo, questa è la realtà, questo volevamo sentire, io non mollo. E l'incubo per i comunisti continua, perché quando si rivoterà lui rivincerà. Sarà sua figlia, sarà una persona, lui gli metterà la mano sulla spalla. Cioè lei, lei se votasse, se si candidasse Marina Berlusconi la voterebbe a occhi chiusi naturalmente, ma senza neanche sentirla parlare. Ci metto. sette croci gli metto io. Ma senza neanche che parla, senza neanche che fa un comizio. Neanche parlare, perché sono una famiglia di imprenditori. Caro il mio giornalista, questa famiglia ha dato lavoro da 45.000 buste paga al mese. Tutta sta gentaglia. Vabbè, questo però non vuol dire che non lo debba votare tutta a scatola chiusa, Giuseppe. Che lo vive, sì. Non ha mai lavorato, sono tutti parassiti dello Stato. Questo dà lavoro, ha dato e dà lavoro, dà benessere. E questo è stato l'unico in grado di bloccare la gelosa macchina della sinistra. E per questo la gelosa macchina? La gelosa macchina? Ah. Sono citazioni storiche che non puoi capire. No, capisco. È che ho capito gelosa, mi sembrava più divertente. Vabbè, Giuseppe, poi siete tornati in macchina con sua figlia. Avete riflettuto su questa giornata. Però ci si poteva aspettare un po' di più. Contentissimi. Sì. Contentissimo. La felicità assoluta, gli posso dire una cosa, questa storia anche finisce non quando viene condannato a Berlusconi, ma quando lui muore fisicamente, poi inizia un'altra con sua figlia, non so chi, ma no, questa storia finisce quando lui muore fisicamente, fin quando lui è in vita prenderà milioni e milioni di voti, questa è la realtà, chi non l'ha capito dopo 20 anni non ha capito niente di politica. No, ma questo secondo me è l'abbiamo capito tutti, che lui prende milioni di voti è un dato di fatto, ci mancherebbe. Perché insistono, tutta questa stampa politicizzata, ma in che senso insiste? Non è che se uno prende un sacco di voti allora non si può parlarne, non giusto? Non è un delinquente, lo sapete tutti, il discorso è una persona come questa che ha dato benessere, che paga fior di milioni e miliardi di tasse a questo Stato indegno, questo non vuol dire però premiato, invece sì. È perseguitato, questo non vuol dire però, va bene Giuseppe, ha ucciso tre persone, grazie. Capo, Giuseppe, grazie. Di gente che dà lavoro ce n'è tanta, voglio dire, no, anche infatti, Agnelli non è questo allora un motivo per essere votato, cioè non è che siccome ha dato lavoro a delle persone, ma vabbè, questo è il punto di vista di Giuseppe, che ci dobbiamo fare, va bene insomma, perché lui metteva in contrapposizione il ruolo di Berlusconi contribuente con nel processo, sempre siamo su quello, certo, con questi 7 milioni di evasione, quindi si dice con tutto quello che lui ha fatto per il lavoro in Italia e le tasse che ha pagato, questi 7 milioni bisognava condonarli, ma io condonarli, per esempio, questo è un punto di vista, certo, assolutamente, solo che purtroppo la legge è così, non è che puoi dire te ne ho già dati degli altri, allora questi possono darteli solo per quello, poi dopo uno può sindacare, giustamente. Luciano da Roma, benvenuto. Sì, buonasera, grazie dell'ospitalità. Prego. Io volevo semplicemente dire una... Oddio, c'ho un ritorno tremendo. Noi la sentiamo forte e chiaro, Luciano, prego. Volevo semplicemente fare una osservazione a proposito di quanto affermato dalla signora, signora lo dico soltanto per questioni di cortesia, Biancofiore. Lei ha detto a un certo punto che è talmente evidente la cosa, riferendosi alla grazia all'ex cavaliere, che la capirebbe anche un cieco. Ma sì. Io sono cieco, vi assicuro che oltre alla minorazione visiva, al deficit visivo, per il resto sono in grado di capire qualunque altra cosa, anche per le sciocchezze che ha detto l'ascoltatore precedente. Cioè, no, mi scusi, lei è non vedente, sta chiamando dicendo io in qualità di cieco rispondo che invece io la penso in un altro modo, giusto? No, io sto dicendo che in qualità di cieco sono in grado di comprendere qualsiasi cosa, non dire è talmente evidente che lo capirebbe. Ma è un modo di dire, però, Luciano. Può capire tutto. Sì, no, ma è chiaro, non può essere anche... non è soltanto un modo di dire, guardi. No, è un modo di no, dire. No, ma mi sembrava interessante preso nell'altro senso. Perché sarebbe in linea, e non mi sarei sentito minimamente toccato, se ci fosse stato da vedere qualcosa di visivo, lo vedrebbe anche un cieco. Vabbè, allora, però Luciano, questa mi sembra un po' pretestuosa. Ma riferito alla grazia per l'ex cavaliere, direi proprio di no. Va bene, mi sembra, questa cosa qua mi sembra pretestuosa. No, però mi sembra interessante, infatti, sì, nell'altro senso, di dire lo capirebbe anche un cieco, invece io chiamo e dico buonasera, io sono un cieco e invece non la penso così, quindi evidentemente, cioè, non basta essere ciechi, diciamo, per pensarla come la Biancofiore, questo volevo dire, mi sembrava divertente. Gino da Milano, non lo so, stavolta Gavardini io non ti ho seguito, vediamo un po', Gino... Sì, buonasera. Lei ha capito il discorso dell'ascoltatore di prima? Meglio di quello abbiamo capito noi? Ma lei sta parlando di Giuseppe? Sì. Sì, ma Giuseppe è pari una medaglia. No, non di Giuseppe, di quest'ultimo ascoltatore. No, Giuseppe di quest'ultimo lui è certamente si è basato sul fatto della sua, diciamo... il fatto che sia cieco, ecco, non è... Qui è stato... Vabbè. messo in discussione una certa situazione, lui dice non mi sembra... Non mi tirate in ballo, io sono non vedente, però era una cosa un po' così. Gino, prego, lei cosa voleva dire invece? Per cosa ha chiamato? Io sono in linea con Giuseppe invece, quello precedente questo signore. Ha ragione. Anche lei è andato a Roma con la figlia? No, senza figlia. È andato a Roma anche lei? No. No, assolutamente, ma ci mancherebbe. No, ma io sono in linea con Giuseppe solo per il fatto che lui dice che Berlusconi certamente è un grande imprenditore. Allora io gli avrei dato una soluzione nei servizi civili, perché lui vuole andare in prigione? No, teniamolo nei servizi sociali, certo, le vuol dire, sì. Servizi sociali. Lo facciamo gestire i servizi sociali, io spero che si mettano d'accordo al governo di aprire le case chiuse e lui sarebbe il gestore ideale, lui sarebbe il non plus ultra. Cioè lo sta proponendo come gestore di bordelli, questo? Ma certamente, ma lui ha già un'esperienza di questo che è enorme. Ma abbiamo anche intervistato un sindaco che si proponeva di chiamarlo lui ai servizi sociali. A Torre Annunziata, non esatto. Per questi servizi, non per questo genere di servizi che lei dice anche perché sono illegali per il momento, che in Italia non si possono fare. E poi poverino, lo mette va in carcere e lo mette su una cosa illegale, facciamogli fare una cosa legale, scusi. Una volta tanto nella vita. Prima istituire una legge. Ah, giusto. Certo, ma prima che passa. Legalizzare il tutto. Poi facciamo gestire a lui da grande imprenditore. Poi con un'esperienza. Vabbè, Gino, mi sembra che non ci sia da continuare con questo intervento. Mi pare che. Sì, Gino, Italia. Buonasera, grazie. Abbiamo capito cosa vuol fare lei con Berlusconi. Però, insomma, ci interessa fino a un certo punto. Mauro da Como. Ecco, buonasera. Io volevo dire buonasera a tutti. In merito alle lacrime di Berlusconi, ma ovviamente fanno parte del copione, dello spettacolo, dello show berlusconiano. Io penso che potrebbe benissimo andare alla prima puntata di C'è posta per te e avrebbe un audience tremendo, raggiungerebbe il 50% di share. Oppure alla nuova fiction, nuovo reality che sta preparando la Rai, The Mission, quello in cui i VIP vanno dove ci sono i rifugiati, in Sudan, in altri posti, che è già stato messo nel mirino perché qualcuno dice, beh, si va nei luoghi della sofferenza alla Rai solo per speculare, per fare un po' di audience. Questa è l'ultima polemica che riguarda la Rai. Mauro, ecco, sì, vuol proseguire? Parlando seriamente, io quello che mi sentirei di dire, cioè, è questa storia che va avanti da 20 anni, Berlusconi è una vergogna, cioè proprio per tutta la nazione. Se adesso è stato riconosciuto colpevole, che avesse un sussulto di dignità, un po' di amor proprio, che si dimetta da tutte le cariche politiche, pubbliche che ha e si ritira in vita privata, perché sennò l'Italia non uscirà mai più da questo pantano. Non ci riprenderemo più né economicamente né moralmente. È una vergogna. Questo volevo dire. Grazie Mauro. Devo dire che con il ritiro di Berlusconi non sia quello il problema, ma insomma l'abbiamo già detto tante volte. No, ma devo dire che da quello che ha detto la Biancofiore si capiva che sul fatto che Berlusconi debba fare un passo indietro, questo lo stanno mettendo nel conto naturalmente anche quelli del PDL. Resta da capire cosa succederà, perché se, come si dice, si apre la strada per la successione familiare con Marina Berlusconi, allora si rimane nel solco forse di quello che abbiamo vissuto fino ad ora. Se, e si entra nella monarchia però a quel e punto. Si entra in una sorta in di monarchia allegria. Politica. Se invece si sceglieranno un altro leader, allora le cose cambieranno. Non ci sarà più referendum solo su Berlusconi, ma ci sarà anche Frankie De Boer su Twitter. Dice chi il è cieco, Frankie De Boer intanto? Un twittero che dice il cieco voleva dire che è talmente evidente che lo capisce anche Gabardini, ma non si è spiegato bene. Mi sembrava corretto per ridare, diciamo, ragione al nostro ascoltatore. E torto a te. Alberto da Udine, buona serata. Salve, buonasera. No, sempre riguardo all'intervento della Biancofiore, non può ritirarsi Berlusconi, ricordiamoci dell'elettorato. Il signor Berlusconi è rimasto in silenzio da settembre a dicembre e sembrava che tutto fosse finito. Se non fosse rientrato in campo non avrebbe vinto, non avrebbe preso 7 milioni di voti, sbagliando naturalmente, tutto un errore quello della campagna elettorale di Bersani. Però ricordiamoci che i signori che li chiamava prima un ascoltatore dei figuranti, i figuranti non ci sarebbero più se non ci fosse stato Berlusconi. Chi sono i figuranti? I 7 milioni di voti non non li ha presi il PDL, li ha presi Berlusconi, quindi Berlusconi non può fare un passo indietro, assolutamente. Io non sono un elettore di centrodestra. E cosa deve fare? Come facciamo? Se lui non può candidarsi, come facciamo? Mettiamo il nome Berlusconi che... e si candida Marina, questo si può fare. Ma no, non avrà la stessa forza, non è. Cioè sta dicendo un po' quello che diceva. Cognome, si chiamerà Berlusconi, tutto quello che vogliamo, non ha la forza mediatica, non ha la forza di Berlusconi, del loro presidente, ok? Giustamente quelli che li chiamava, l'ascoltatore che li chiamava dei figuranti ha detto o sono innamorati oppure sono pagati, probabilmente tutti e due non si innamoreranno della Marina Berlusconi esattamente come si sono innamorati del loro. Vabbè, però un conto sono quelli che sono andati in piazza, un conto sono quelli che invece hanno dato il voto a Berlusconi, quindi quelli non sono figuranti, quelli che hanno dato il voto a Berlusconi sono milioni di italiani. Lei lo sa meglio di me che non sono andati in piazza se non per un gettone. Ma d'accordo, ma non è interessante, così, non è molto interessante le migliaia di persone che erano in piazza non ieri. Erano tante migliaia, il colpo d'occhio non dava 25.000 persone. Ma appunto, ho detto qualche migliaia, nel senso che 2.000, 5.000, poi abbiamo 8.000. Anche appurato grazie a un tassista che erano 8.000. Abbiamo quindi, quasi la cifra esatta. Il problema è che quelli possono essere figuranti o meno, chi invece vota Berlusconi non sono figuranti, perché sono milioni di voti. Oppure siamo un paese di figuranti, allora dobbiamo rimetterci a fare del cinema. Alberto, grazie, buona serata. Ci fermiamo qua, non con col programma, ci fermiamo qua con lei. 800 24 00 24. Abbiamo ancora qualche telefonata. Facciamo una breve pausa per il traffico con l'ultima buona notizia della serata. And now the good news. L'Emmaiala in toscano significa la situazione è grave ed è anche il nome del primo ristorante dove il conto si paga con il metodo del baratto. Al momento della prenotazione si propone un oggetto qualsiasi in cambio della cena. Dagli ortaggi agli arredi, dai libri ai DVD, si accetta tutto, ma prima vedere cammello. Si può fare l'attualità anche d'estate. Abbiamo Antonio che ci chiama da Catanzaro. Buonasera. Buonasera. Allora, io faccio l'avvocato e le volevo dire una cosa. C'è una disciplina giuridica che si chiama scienza delle finanze e fa una rilevante distinzione tra l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Oddio Antonio, però siamo è durissima alle 8:15 così. Siamo partiti proprio aspetti, in salita. Aspetti, un solo attimo. Perché ci mancherebbe, non qui. Perché la condanna di Berlusconi è stata una condanna ingiusta. In realtà si può parlare di elusione fiscale quando si sfruttano tutte le leggi per evitare di non pagare l'imposta. Altra cosa è la evasione fiscale, che significa evadere. Io credo che Berlusconi non abbia mai evaso il fisco, ha sempre non pagato, è stato un ottimo contribuente. Semmai, grazie ai suoi consulenti, ha fatto qualche elusione fiscale. Ma non è una condotta penalmente rilevante la elusione fiscale, è una condotta consentita e tollerata dal nostro ordinamento giuridico, primo. Per cui credo che la condanna di Berlusconi sia stata una condanna fondata esclusivamente su indizi, hanno sommato 10 indizi elevandoli a dignità di prova e questo è un'operazione. Antonio, però ci risparmi la lezione sulla sentenza, perché secondo me, la dico brutalmente, non gliene frega niente a nessuno. Cioè, nel senso, poi la sua interpretazione sulla sentenza, allora dovremmo sentire quella di un avvocato. Ma, di e un poi dovremmo sentire Coppi, Ghedini, poverini, che evidentemente lei è stato più bravo, ha trovato la soluzione. Adesso in radio alle 8:18 sarebbe incredibile. Roberto da Bolzano, buonasera. Ah, buonasera, Roberto da Bolzano. Prego, buonasera. Ho sentito che oggi avevate l'onorevole Biancofiore, non ho avuto piacere di sentirla, nel senso che non ero collegato, però mi piacerebbe avere da ricordare che anche l'onorevole Biancofiore è anche consigliere comunale al comune di Bolzano. Attualmente? Purtroppo non è mai presente, mi sembra che ha delle delle percentuali di non presenza tipo bulgare, roba del 98%, 90%, insomma non c'è mai praticamente. Mi piacerebbe che anche il suo fervore che lei dimostra per Silvio Berlusconi lo dimostrasse anche dai banchi del Consiglio Comunale di Bolzano, Consiglio Comunale che la stessa opposizione ha richiesto che venga estromessa, nel senso che a loro rimanca continuamente uno dell'opposizione. Chiaramente la maggioranza gli va bene così, nel senso che non c'è mai una in meno. Per quello che insomma mi piacerebbe vederla anche qua, dato che è stata eletta, che dice sempre il popolo è sovrano, il popolo è legge, il popolo qua, il popolo là, è stata eletta al Consiglio Comunale di Bolzano. E non c'è mai, vabbè, questo non succede mai, spesso con i doppi incarichi che infatti andrebbero aboliti perché non hanno senso. Grazie Roberto, era per questo che ha chiamato? Voleva dire qualcos'altro? Sì, no, volevo che anche venisse anche ogni tanto al Consiglio Comunale di Bolzano. Va bene. Un invito a Michela Biancofiore a recarsi ogni tanto al Consiglio Comunale di Bolzano, glielo rivolge il signor Roberto. Andiamo a Varese, da dove ci chiama Sergio, buonasera. Buonasera. Prego Sergio. Niente, io sono un simpatizzante del PD e devo dire che mi viene un nervoso con loro. Comunque, a prescindere con da chi? Quello... Con chi le viene un nervoso? Con tutta la nomenclatura del PD che andrebbe cambiata. Comunque, a prescindere da quello nei dibattiti, sì, che continuo a sentire Berlusconi colpevole, non colpevole, è ridicolo questo dibattito. Personalmente, che Berlusconi sia colpevole o no, lo decide la magistratura, che se abbia fatto con le oggettine, non me ne frega niente, ma la colpa, ed è indiscutibile, la colpa politica di Berlusconi è che lui è 20 anni che è lì, 20 anni che governa più o meno sempre, noi 20 anni fa stavamo meglio o peggio? Sicuramente meglio. Di conseguenza la colpa politica, l'unico discorso che si deve fare alla gente, agli italiani, è: Berlusconi ha governato bene o male? Va bene, però non possiamo aprire adesso un dibattito su questo perché non c'è tempo, anche perché è arrivato il momento, grazie Sergio, della nostra bella storia di stasera. Abbiamo parlato dei blitz dell'Agenzia delle Entrate nelle località di mare e allora noi siamo andati a ripescare una buona pratica nel campo, diciamo così, della lotta all'evasione fiscale, caro Gabardini. Tu questa cosa sicuramente non la sapevi, cioè un'azienda in Italia che produce scontrini fiscali col gratta e vinci. Bellissimo. Insomma, sembra una cosa così. Di modo che uno lo chiede, dice lo voglio lo scontrino, perché voglio vedere se ho vinto. E stanno prendendo piede, lo ritroviamo molto volentieri, Ivan Brignani, titolare della New World Printing di Monza. Buonasera Brignani. Buonasera a voi. Ogni tanto vi si chiama in ballo perché la questione torna d'attualità. Ci avevamo sentiti qualche mese fa, direi, si può fare il sabato, e lei ci aveva raccontato di questa vostra iniziativa che stava prendendo piede. In quanti, non lo so, negozi, centri commerciali si possono trovare i vostri scontrini? Poi ci spiega bene come funziona. Allora, visto la nostra piccola dimensione, noi stiamo lavorando a livello, come si può dire, commercianti, pizzerie, pescivendoli, cioè a livello, diciamo, medio-basso. Stiamo aspettando il grande nome della grande distribuzione, sì, che ci contattano in parecchi e vorremmo concretizzare. Ma volevo raccontarle degli aneddoti che mi sono arrivati recentemente che le fanno capire il paradosso. Spero inerenti all'argomento. Esatto, nel senso che se lei va a vedere, sono state depositate delle proposte di legge per farle dei nomi, da Iannone del PDL, Bitonci della Lega, Tabacci del PD, sì, e infine 3 settimane fa mi ha contattato il deputato Daniele Pesco di Movimento 5 Stelle, sì, dicendo che è molto interessante questa proposta. Allora io dico, cioè che la sua proposta, cioè quello che voi fate, esatto, è paradossale. Quindi un'iniziativa che è bipartisan a vostro sostegno, maggiori, sì, su un'idea comune, e io mi aspetto che la cosa si concretizza, perché il modo di rendere appetibile lo scontrino deve essere un premio, se certo, dal nostro punto di vista. Se arrivasse una legge su questo, naturalmente sarebbe un bel incentivo a quelle aziende che fanno questa cosa qua. Ma come funziona? Funziona? Cioè, che cosa si vince? Allora, le faccio un esempio che è proprio dell'onorevole Bitonci, che se noi mettiamo un grattevinci dietro lo scontrino e mettiamo dei premi da 100 euro a 500 euro, non di più, o dei buoni benzina... Tutti sono invogliati a chiedere lo scontrino, anzi lo pretendono. Anche dirò di più, persino l'esercente, perché l'onorevole Bitonci ha proposto che il 20% della vincita vada all'esercente e l'80% al cliente finale. Ah, cioè si gioca a grattevinci insieme per pagare le tasse? Però... Esatto, ciò vuol dire che l'esercente ha 300 scontrini al giorno, ha 300 possibilità. Il cliente finale che beve 3 caffè ha 3 possibilità. Ma chi mette il montepremio, Brignani? Allora, il fatto è proprio questo, che il governo con dei premi di basso importo, come già avviene a Taiwan, a San Paolo o in Cina, invoglia il cliente finale a non pretendere il 20% di sconto come si fa usualmente in Italia, ma di dire, se io prendo lo scontino, probabilmente se una volta all'anno mi capitano i 500 euro, me ne sono pagati di caffè o no. Certo, ma questa cosa qua comunque si, nonostante lei dica i numeri sono ancora piccoli, si può già fare in alcune zone. Dov'è che siete territorialmente più distribuiti? Ah, più distribuiti siamo nel Veneto, però anche in Lombardia, siamo in Sardegna e abbiamo avuto dei contatti con grosse aziende farmaceutiche o della GDO. Secondo il nostro punto di vista siamo arrivati maturi, come si suol dire, a fare il grande passo. Diciamo che noi siamo convinti che è una cosa che in questo momento al governo può tornare molto utile, con dei costi veramente stupidi, per non dire irrisori. Sarebbe una bella notizia che qualcuno si svegliasse in Parlamento su questo. Grazie Ivan Brignani della New World Printing di Monza, gratta gratis l'iniziativa. Noi ci fermiamo qua. Gratta gratis. Anche per oggi è tutto. Alessio Maurizi, Carlo Gabardini. Ciao a tutti. Allora, posso leggere un sms velocissimo? Andrea Piana, Laura Faggin, Riccardo Buccero, Valeria Bernardi. Riguardo al modo di fare le manifestazioni, mandando semplicemente una mail senza aspettare la risposta, ci scrive qualcuno: stasera mi trombo un'amica e ho trovato il modo, basta che gli mando una mail e vado. A domani. E salutiamo anche chi ci ascolta in podcast.